È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. E spara su questo, e spara su quello, mira al centro, se lo prendi vinci, dal di là, sinistro, destra, e qui la festa, porta tua sorella che non si dispiacerà, porta i delusi, i confusi. Tutti dicono di sparare, caro Parenzo. Tutti, sì, certo, Castelli, sì, ho sentito. Non solo Castelli, anche e soprattutto Speroni questa mattina, durante la trasmissione condotta da Alessandro Milan, mattino 24 mattino, e insomma c'è un rifiorire dello spirito battagliero della Lega, non so come dire, perché poi tecnicamente è evidente che non si sparerà mai, no? Perché per fortuna. I cattivi li facciamo fare solo agli altri, per esempio alla Spagna, io non dico per fortuna, la Spagna spara, e come se spara qualche volta, ha sparato nel 2005, continua a sparare in casi d'emergenza. Zapatero spara e sbaglia, secondo me non sbaglia, secondo te sbaglia, ma se ne può discutere, comunque spara, certo. Che la tua carriera viaggia sulla pelle mia, tutto concesso e niente ammesso. Noi siamo invasi. C'è gente che viene in Italia senza permesso, violando tutte le regole. Beh, a questo punto bisogna usare tutti i mezzi per respingerli. Anche le armi. Eventualmente anche le armi, se è l'ultima ragione. Ripeto, proprio l'Europa sta usando le armi nello stesso ambiente, in Libia. E non vedo allora perché le armi per uno scopo si possono usare e per quell'altro no. Siamo di fronte a un'invasione. Beh, insomma, sull'invasione si può discutere, perché i numeri non sono proprio quelli di un'invasione, come si dice. Poi che c'entra l'intervento in Libia? Certo, si usano tecnicamente le armi in tutti e due i casi, ma una cosa sono le armi per respingere un'invasione armata, una cosa è usare le armi, che ne so, per respingere i barconi o per respingere un assalto degli immigrati ad alcune postazioni. Sono due cose diverse, per non parlare poi dell'intervento militare sul territorio in Libia, cioè dei bombardieri. Poi Speroni evoca addirittura Hitler. Senti, certo non lo evoca come esempio, comunque lo nomina. Ah, Hitler ha sbagliato tutto. Se fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe mandato in giro dei tedeschi coi barconi a invadere il mondo e nessuno avrebbe potuto fermarli perché, le ragioni umanitarie, eccetera, eccetera. Allora noi in Libano stiamo usando le armi. In Libia. Noi non stiamo usando le armi in Afghanistan. E perché non dobbiamo usarle per difendere i nostri confini? E ancora un altro io questa cosa di Hitler l'ho capita dopo 20 minuti, analizzando parola per parola e passaggio per passaggio. Ci ho messo 20 minuti, ti giuro, 20 minuti per capire questa cosa di Hitler. Io so solo che solamente nominare Hitler, anche se non come modello in questo caso, è una follia. Ma lasciamo perdere, andiamo avanti. Il nostro amico Speroni, che spesso incontriamo al Parlamento Europeo, sembra sempre così. Capo della delegazione, peraltro. Capo della delegazione leghista al Parlamento Europeo. E vabbè. Blocco navale, lecito usare le armi. Mi faccia capire. Fare un blocco navale. Non vuol dire solo armi da sparo. Io parlo ad esempio della marina militare. Cosa abbiamo a fare la marina militare? Se la marina militare non è capace di fermare un'invasione, bisogna prenderli e riportarli da dove sono venuti. È lecito utilizzare le armi, questo è diritto internazionale. Sì, ma non è un'armata che ci invade, cioè per conquistare il paese. Ma cosa vuol dire l'armata? Ripeto, i nostri pescherecci quando vanno in Tunisia vengono mitragliati e i pescherecci non sono un'armata, non sono motovedette, non sono incrociatori, cazzatorpedinieri, sono pescherecci. Ne abbiamo viste. Beh, anche qui il paragone con i pescherecci italiani e i tunisini, e poi possiamo dire anche meno male che non siamo come la Tunisia o con la Libia, che sparano magari, no, quella di Ben Ali o la Libia di Gheddafi, che sparavano comunque al primo avvicinarsi di un peschereccio italiano, insomma, non sono proprio modelli, no? Esatto, ci mancherebbe altro. Primo questo, però bisogna dire che l'utilizzazione della marina militare e della forza in altri paesi rispetto al buonismo italiano e rispetto a quella paura che abbiamo nell'utilizzazione della marina militare contro gli immigrati o comunque anche contro gli immigrati o per bloccare gli immigrati, il problema esiste, il problema non è che non esista, cioè, certo, c'è, nega, da noi c'è, nega, in Italia dopo la seconda guerra mondiale una grandissima riluttanza a utilizzare la marina militare anche per questi scopi. Detto questo, quando sento queste parole pronunciare da Speroni, non sono d'accordo. Non so, se le pronunciasse qualcun altro sarei d'accordo. La pronuncia Speroni non mi suona male. Mi suona male, vabbè. Detto sempre con tutto rispetto, di qualsiasi autorità, caro Parenzo. Dove ti trovi? Davanti alla camera, forse? Davanti alla camera, lo sai, certo. Ho capito. Davanti alla camera. Prestati al gioco, abbi pazienza. No. Sì, sono davanti alla camera, caro Michele, caro Cruciani, e c'è una manifestazione in corso del popolo viola. In questo ancora, momento ancora col passo, sì, c'è il processo breve, sì, il processo breve, sì, il processo breve. Ci sono anche delle bandiere di futuro, sì, e libertà a fianco alle bandiere del popolo viola. Pensate, a fianco alle bandiere. Pensate. Qui davanti una signora del popolo viola che tiene in mano un bellissimo cartello che recita: e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, e questo libro è la Costituzione, sì. E poi tanti cartelli: io sono nipote di Pertini, io nipote di Mubarak, io nipote di Gheddafi. Tu, ecco con quale, quanto ti trovi, ecco, a tuo agio? Siamo di rete viola, ecco qua in quanto noi siamo di rete viola, va bene, va bene, ma non avete, no, non avete niente da fare stasera, non avete niente da fare stasera, dice Cruciani. No, abbiamo da fare, no, dico a casa, tempo libero alla democrazia e alla Costituzione, sì. Ma non ci sono altre cose da fare in giro per Roma, andare a casa, lavorare, passare del tempo libero, no, davanti alla camera con i cartelli, vabbè. Va bene. Non ti sento. Lo so. Dice vabbè. Dice che sono qui a protestare. Lo so. Parenzo, no, per carità. No. Prima di presentarti un ospite molto importante tra qualche istante, voglio farti ascoltare però quello che Casini ha detto rispondendo a una domanda di Alessandro Sallusti ieri sera a Ballarò, a proposito del fatto che sia Casini che Fini nel passato non è che avevano escluso l'utilizzazione delle armi. Adesso si grida lo scandalo per i leghisti, però nel 99 Casini diceva: con gli scafisti che scaricano sulle coste italiane centinaia di immigrati clandestini siamo in guerra, oggi si deve poter sparare. E Fini: in certe situazioni può essere giusto mettere le forze dell'ordine in condizione di impiegare le armi, come del resto già avviene oggi. Casini ieri sera: lei ha ricordato che io proposi di spagare gli scafisti. È una delle cose di cui sono più fiero, perché benissimo, mi ricordo che quegli scafisti erano quelli che buttavano i bambini a 2 chilometri dalla costa, davanti a Lecce o davanti a Puglia, alla Puglia, ed era il racket che ordiva l'andata avanti e indietro, quel racket che noi dobbiamo stare molto attenti a dissuadere, certo, anche oggi. Beh, anche qui è difficile, non è che si spara agli scafisti quando sono da soli gli scafisti, si sparava agli scafisti, penso, con le persone dentro, altrimenti quando hanno già lasciato la gente non capisco cosa significa. Comunque, effettivamente è una cosa complicata da spiegare. Lasciamo questa, perdere, brava. Ti voglio presentare una persona, il senatore Patrizia Bugnano, buonasera. Buonasera a lei. Come sta, senatrice? Benissimo, grazie. Dove si trova? A Strasburgo, al come Consiglio mai? D'Europa. E come ha? Perché faccio parte della delegazione italiana al Consiglio d'Europa. Allora, la senatrice Patrizia Bugnano dell'Italia dei Valori è una senatrice da questa legislatura, dal 2008 se non sbaglio, no? Esatto. Sì. Abbiamo controllato, lei più o meno come presenze alla Camera è nella media, 65% e 35%, niente da rimproverare da questo punto di vista, noi controlliamo tutto, monitoriamo tutto. Bravi. Lei è balzata agli onori della cronaca in queste ore perché è l'avvocato di due ragazze diciottenni piemontesi, certo, come lei, Ambra, sì, Battilana e Chiara Danese, i cui verbali di interrogatorio oggi sono presenti su Repubblica, credo, non su altri giornali e forse anche su un altro giornale. Interrogatorio rilasciato, credo, lunedì scorso ai PM di Milano per l'inchiesta che riguarda non quella di Berlusconi che adesso è iniziato, di cui è iniziato il processo adesso, bensì l'altro processo, quello che coinvolge Fede Minetti e Lele Mora. Queste ragazze, lei poi mi corregga se sbaglio, queste ragazze raccontano come si svolgevano queste serate del Bugabung in cui sono state coinvolte anche il loro cosiddetto reclutamento tra virgolette attraverso Emilio Fede. Io le voglio chiedere una cosa, perché al di là dei dettagli di cui magari poi parleremo, se lei può parlarne, c'è una piccola polemica, non c'è dubbio, sul fatto che lei è l'avvocato di queste due ragazze. Non so se poi lei sia stata lei a portare queste ragazze davanti ai magistrati, e nello stesso tempo è un senatore, è una senatrice dell'Italia dei Valori. Come ha conosciuto queste ragazze? Allora, io di questa polemica ne ho letto dalle agenzie e non ho voluto volutamente, scusi il gioco di parole, replicare più di tanto rispetto a questo fatto, perché non posso impedirla, ma la ritengo una polemica sterile. Io, perché sterile? Perché io faccio politica da pochissimi anni, sono un avvocato, un professionista anche stimato sul Foro di Torino, e in questo momento io sono un avvocato e oggi ho rilasciato dichiarazioni in questa direzione. Ci tengo molto a questa cosa perché io non voglio mischiare il ruolo politico con il ruolo professionale. Il partito di questo non sapeva niente, infatti oggi ho ricevuto decine di telefonate dai miei colleghi che hanno letto come voi sul giornale quello che è uscito, e dal mio punto di vista, anche per la mia serietà professionale che ho acquisito in diversi anni di professione, non voglio mischiare le cose. Però mi scusi, senatrice Bugnano, mischiare queste due cose è quasi inevitabile. Mi scusi se insisto su questo, perché no, non è detto. Non è detto, se lei ci dice, se vuole, non è mica un obbligo, naturalmente, però in qualche modo lei sarà, non dico costretta, però sarà spinta a fare nelle prossime ore il modo in cui è avvenuto il contatto. Guardi, io questo l'ho già dichiarato ampiamente oggi e non ho problemi a ripeterlo a lei. Leggo tante cose. Io Ambra e Chiara le ho conosciute qualche settimana fa, sono state accompagnate nel mio studio da una persona, il cui nome è stato anche fatto da Ambra ed è anche riportato su Repubblica. Il loro agente, no? Sì, quello che loro diciamo chiamano il loro agente. Sì. E dopodiché io... Ma è il loro agente o no? Sì. Beh, non lo so io. Come l'ha conosciuto questo agente? Lo conoscerà? Cioè, non è che i contatti avvengono per caso? Lo conosco perché è una persona con cui ho avuto già rapporti professionali, nel senso che mi aveva portato un'altra cliente, perché io mi occupo di diritto del lavoro e quindi mi aveva portato una persona per una causa di lavoro. Quindi, dunque, non è un po' strano sempre che lei... rapporti professionali, certo. Dopodiché, scusi, io siccome mi occupo di civile, questa era una questione che aveva risvolti anche e soprattutto di tipo penalistico, anche se io le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali le seguo, quindi sempre gli aspetti civilistici, ho immediatamente contattato il mio collega, un rispettabilissimo avvocato penalista di Torino, con il quale abbiamo rincontrato le ragazze e adesso insieme stiamo seguendo questa vicenda. Dunque lei ha voluto che essere affiancata da un penalista? Assolutamente, mi sembra per serietà. Io quando ho questioni che possono avere risolti di questo tipo non le seguo mai da sola, per serietà. Scusi, i conflitti di interesse sono tanti altri in politica, no? È evidente. Però il rischio di buttarla in politica è evidente. Lei non si è sentita come quello. Esatto, cioè lei non si è sentita quando questo signore, l'agente di queste ragazze, o presunto tale, gliel'ha presentate. Sì. Poi è stata lei a interpellare i magistrati? Noi abbiamo depositato con il collega una memoria a nome di queste ragazze, in cui le ragazze chiedevano di essere sentite su questa vicenda per esporre la loro verità. E poi le ragazze sono state convocate, come lei ha ricordato, dalla procura lunedì tre giorni fa, sostanzialmente. Sì. E il collega ed io le abbiamo accompagnate, ovviamente non abbiamo assistito al loro interrogatorio, perché loro sono persone informate sui fatti e quindi... Non avete assistito all'interrogatorio? Non potevamo, non avremmo dovuto assistere e non abbiamo assistito. Senta, senatrice, un po' di imbarazzo. Lei, come senatrice dell'Italia dei Valori, lei ha fatto anche delle battaglie sulla questione delle donne, eccetera, Berlusconi, non si è sentito un po' in imbarazzo a portare delle testimoni, no, portare fisicamente, insomma, essere il difensore di persone che vanno a raccontare come si svolgevano quelle serate. In quanto senatrice non prova nessun imbarazzo? Allora, intanto in quel momento io non sono un senatore, ma sono un avvocato. Vabbè, non si possono scindere. Per lei, ma per me questo è fondamentale. No, ma non si possono scindere le due cose. E comunque, no, mi scusi, comunque dal mio punto di vista io ho voluto credere a queste ragazze. Sì. Le ho anche in qualche modo messe alla prova, nel senso che ho detto che se volevano che io le assistessi dovevamo concordare insieme che una volta che la notizia fosse uscita, perché era immaginabile che uscisse prima o poi, loro non avrebbero rilasciato interviste, non avrebbero accettato partecipazioni televisive, perché io non volevo che questo venisse strumentalizzato, e così è e così sarà. E quindi per me questo da parte delle ragazze è stato comunque un atto della serietà di intenti. Ho capito. C'è Io ho detto loro, secondo me il posto unico e giusto per andare a dire la vostra verità è la Procura della Repubblica. Io altro non vi posso offrire. Poi queste cose sono uscite, ma era normale che uscissero perché sono Io atti guardi, depositati. I verbali delle ragazze non li ho neanche perché non ho diritto. E chi l'ha dati ai giornali? Non lo so. Questo cioè, indagate voi. Lei non l'ha dati dunque a nessuno? Non li ho. Non li ha. non li ho. Traffico, torniamo tra un istante. 800 24 00 24. Parenzo, scaldati, Io sono pronto. Lotto come un leone. Canzone che t'ho scovato, Parenzo. Zanzara Tigre, bellissima. Me l'ha mandato un ascoltatore, come al solito. Bravi questi ascoltatori. Molto bravi. Attenti, attenti, collaborativi. Bene. 18:49, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. In collegamento da Strasburgo, il senatore, la senatrice Patrizia Bugnano, Italia dei Valori, che è anche il difensore delle due ragazze di cui oggi si parla molto sui giornali per queste testimonianze di descrizione delle notti, delle serate, del bunga bunga. Voglio assumere per gli ascoltatori quello che è uscito perché non è non sono tenuti a saperlo. Leggi alcuni passaggi delle testimonianze. Ma tu a te appassionano queste, quanto ti appassionano queste cose? No, quanto leggile, ti appassionano? Leggile. Perché bisogna ricordare una cosa prima che tu legga questa testimonianza. Che le due ragazze, essendo testimoni e quindi avendo fatto quelle dichiarazioni, non dire stupidaggini che c'è l'avvocato qui. Senza la presenza dell'avvocato, sono persone che hanno deciso di andare là perché sapevano una verità e hanno deciso di correre un rischio che è quello di fare una testimonianza che qualora si dimostrasse falsa comporterebbe un procedimento penale a carico. Ma quello vale per quello vale per tutti. No, stai attento perché se loro fossero mamma mia come sei cavilloso. Sempre col codice in mano stai, sei fissato. Loro mettono la loro faccia di 18 anni in questa storia e rischiano di essere spuntanate qualora fosse falso. Quindi attenzione perché rischiano qualcosa di loro. Vabbè, intanto Fede ha querelato queste due ragazze, Ambra e Chiara lo ha annunciato qualche... Lei lo ha saputo, senatrice, avvocato? No, questo mi mancava oggi. Ecco, cioè, lei evidentemente a Strasburgo, ho querelato Ambra e Chiara, questa è un'agenzia uscita un'oretta fa circa. Comunque, insomma, possiamo leggere alcune cose, Berlusconi fa portare una statuetta con un pene grosso, la fa girare tra le ragazze e chiede loro di baciarne il pene. Leggi piano. No, vabbè, a un certo punto la Minetti si esibisce in una lap dance, indossa uno di quei vestiti che si tolgono a strappo, rimane nuda. Poi ancora su queste serate del bunga bunga tutte cominciano a prendere i doni dai vassoietti, le ragazze hanno un atteggiamento molto confidenziale con il presidente, sono elettrizzate eccetera eccetera, poi nella piccola discoteca con il palo al centro e i divanetti tutto intorno nell'angolo un DJ, le ragazze iniziano a ballare in modo piuttosto volgare, frustini, vestitini eccetera eccetera. Ma insomma ci metteremo veramente 4 ore a leggere tutto. La cosa che voglio chiedere all'avvocato è questa: come mai è passato tutto questo tempo prima delle testimonianze delle due ragazze? Allora, ovviamente io ho, come dire, recepito quello che le ragazze mi hanno detto. Le ragazze dopo la serata di agosto sono finite sui giornali come escort. Una studia, fa quest'anno, si diploma all'istituto tecnico, l'altra abita in un piccolo comune del Piemonte e da allora si sono ritrovate quasi tutti i giorni giornalisti sotto la scuola, persone che le insultavano mentre passeggiavano per il loro paese. Non sono più riuscite neanche a fare quel minimo di lavoro che magari svolgevano, qualche sfilata, perché appena cercano dei contatti vengono subito derubricate a prostitute. Le famiglie, che sono famiglie assolutamente normali, proprio la normalità più assoluta, ovviamente hanno vissuto quello che vi immagino possa vivere una famiglia che vede sua figlia messa sui giornali in questo modo, e quindi è chiaro che il coraggio, perché io lo chiamo coraggio in questo caso, perché il dottor Parenzo ha detto una cosa molto corretta, di arrivare a fare questa scelta e quindi comunque di esporsi nuovamente dal punto di vista mediatico, perché sarebbe stato noi abbiamo preventivato questo. È maturato nel tempo. Quando è maturato loro, come dire, ma volevano liberarsi di qualcosa? No, vogliono essere in qualche modo riportate all'onore della cronaca, non come escort, ma come ragazze che avevano un sogno, fare Miss Italia, entrare in televisione, e che hanno visto infranto il loro sogno nel modo peggiore. In che modo? Nel modo di partecipare ad una festa dove hanno visto quello che hanno dichiarato ed essere assolutamente terrorizzate, e dopodiché aver deciso di ritornare, una a continuare a studiare, a prendere il diploma, e l'altra adesso iniziare le serali per anche lei diplomarsi e fare tutt'altro nella vita. Che problemino c'è? Quello che voglio chiedere all'avvocato, nonché senatore, è questo: in un processo come quello che abbiamo descritto ormai da mesi, come farà la signora, l'avvocato, a diciamo provare, sostanziare quello che le ragazze hanno detto di aver visto? Ma allora, qual è la lenzuola fumante? Qual è la lenzuola fumante? No, intanto fumante, precisiamo questo: le ragazze hanno fatto delle dichiarazioni, ovviamente adesso quelle dichiarazioni sono in atti, sarà la procura e poi il magistrato al quale verranno poi ricevute. Ma hanno delle hanno portato delle foto le ragazze? No, assolutamente. Senti, un'altra cosa, perché siamo quasi in conclusione, le voglio chiedere una cosa: lei che idea si è fatta del rapporto che Berlusconi ha con le donne? Allora, se tutte queste cose che sentiamo e che abbiamo sentito sono vere, credo un rapporto sbagliato, perché credo che il presidente Berlusconi poteva, come dire, avere tutte le donne che avrebbe voluto avere, ma con un rapporto, uno svolgimento di rapporti normali, ecco, non questi rapporti che ci appaiono oggettivamente perversi e un po' oltre le righe. Perché perversi, dice lei? Ma insomma, voglio dire, al di là di quello che hanno detto le ragazze, anche quello che è emerso da altre dichiarazioni, altre intercettazioni, insomma, credo che si possa parlare di perversione, insomma. Cioè, Berlusconi è malato dal punto di vista sessuale, secondo lei? Non dico che sia malato, però credo che un rapporto fra un uomo e una donna debba svolgersi in altri modi, questa è la mia idea. Beh, non ci sono regole, come lei sa, no? Cioè, ci sono regole se non quelle della che prevede la legge. Per carità, assolutamente, però... Cioè, le perversioni, diciamo, fanno parte della... Guardi, non sono una bacchettona, né sono, come dire, una di quelle persone che... giudica gli altri così tout court, però credo, da quello che sappiamo tutti, che qui si sia andati un po' oltre, anche se fatto nelle mura di casa. Andati un po' oltre che significa? Cioè, andati un po' oltre, cioè lei parla di perversione, no? Di perversione, cioè di... Io credo che un rapporto fra un uomo e una donna non si debba svolgere in quei termini, ma questo ovviamente non riguarda solo Berlusconi, ma riguarda anche tutte quelle donne che hanno accettato di tenere comportamenti di questo tipo, al di là degli obiettivi che loro avevano. Allora, torno con lei se vuole per altri pochi, 2-3 minuti al massimo, dopo il giornale radio 800 24 00 24. Parenzo davanti alla camera, credo che gridano addirittura i nomi di Ambra e di Chiara, ho saputo una cosa pazzesca nel sentire davanti alla camera. Volevo dirti, però poi è notizia dell'ultimo minuto, clamoroso, è appena uscito Osvaldo Napoli. Beh, chi se ne frega, a dopo. Chi se ne frega, no, certo, è ovvio, ciao. Eccoci qui, 19:17, questa è la Zanzara, caro Parenzo, in collegamento dalla Camera dei Deputati, 800 24 00 24. E abbiamo, io mi dispiace averti sottratto l'annuncio del TG3, ma capirai bene Ubi Maior, abbiamo ormai un'annunciatrice d'eccezione, una signorina che tra l'altro ha partecipato alle stesse serate dove sono state le ragazze di cui parlavamo prima, con la senatrice nonché avvocato Patrizia Bugnano, che è sempre in collegamento con noi da Strasburgo. E dunque, direi di lasciare la presentazione del TG3 alle parole, alla voce, devo dire molto affascinante, e non solo la voce, caro Parenzo, come sai bene, di Maristel Polanco. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Sta per concludersi la lunga maratona sul processo breve, tra poco il voto alla Camera, le polemiche colpiscono anche Fini. La rabbia dei parenti delle vittime delle tragedie di Viareggio, dell'Aquila, della Moby Prince, con il processo breve noi vittime senza giustizia. Chiara e Ambra, due testimoni delle feste con il Premier, raccontano ai PM un incubo le notti ad Arcore, Berlusconi sono schifato. Berlusconi sui migranti, liberi di circolare in Europa, Maroni se no fuori da Schengen e Speroni rilancia Mitra contro i barconi. A Pantelleria, a pochi metri dalla costa, un barcone carico di migranti si incaglia sugli scogli, muoiono due donne, un disperso. Il governo presenta il piano per ridurre deficit e debito, rigore ma niente lacrime e sangue, dice Tremonti, crescita inferiore al previsto. I nostri inviati nella città assediata dalle truppe di Gheddafi, bombe e razzi, i cecchini sparano sui civili, i ribelli chiedono aiuto. Siamo qui, Parenzo, volevo far sentire anche all'avvocato, che è sempre in collegamento con noi, quello che Emilio Fede ha detto durante il telegiornale delle 19, Rete 4, appena andato in onda, proprio su questa vicenda, che questa mattina è presente su Repubblica, cioè i verbali di interrogatorio di queste ragazze che coinvolgono Emilio Fede, che è sostanzialmente definito un reclutatore, almeno così esce fuori. Così viene fuori da questi interrogatori, perché queste ragazze vengono invitate ad Arcore il giorno dopo aver sostenuto un provino con Emilio Fede. Sentiamo Fede. Oggi voglio dire, non voglio entrare in merito perché, vabbè, non voglio entrare nei particolari, posso soltanto, tranne che per dire che alcune persone dopo 5 mesi si presentano per una dichiarazione spontanea il lunedì e guarda caso poche ore dopo queste notizie dovrebbero essere riservo istruttorio, sono già nelle redazioni dei giornali. Io non dico che questa è una vergogna, è di peggio, è qualcosa di peggio. Allora, su questo bisogna dire che gli atti, che pure non dovrebbero uscire secondo la legge, vengono dati alle parti, no avvocato? Vengono dati alle parti, perché non li ha lei? Mi sembra bizzarro essendo... Io non li ho perché il codice, il nostro codice di procedura penale non prevede che all'avvocato di una persona informata sui fatti fino ad un certo punto non vengano rilasciati questi documenti, anche adesso dati, che sono diventati ufficiali perché sono stati depositati essendoci stato il provvedimento di chiusura delle indagini, anche in questo momento io non ho diritto di averli, salva autorizzazione del magistrato. E chi ce li ha? Però... fisicamente in mano chi ce li ha? Beh, la procura, le cancellerie e sicuramente gli avvocati degli indagati. Procure, cancellerie. Però capisce che questa è una vera stortura del sistema, perché se è vero che la legge lo prevede, però è curioso che lei, che è l'avvocato di parte civile, debba leggere quello che le sue assistite hanno detto dai quotidiani. Dopodiché, sono d'accordo con lei, però è così, il nostro codice dice questo. Le voglio chiedere una cosa, Parenzo, c'era qualcosa da chiedere sulla vicenda Fede, da questa vicenda qua, da quello che le ragazze le hanno raccontato, Fede lei come lo definirebbe? Oddio, non ci ho mai pensato su come definire Fede, non saprei proprio risponderle. Beh, che ruolo ha avuto secondo lei il direttore della vicenda? Che ruolo ha avuto in questa vicenda il direttore del TG4? Quello che avete letto sul giornale, su Repubblica, che ha pubblicato direi sostanzialmente tutto quello che le ragazze mi hanno detto di aver detto al procuratore. Cioè lei lo definirebbe un reclutatore delle serate di Berlusconi? Non lo so, io non ho altre conoscenze al di là di quello che mi hanno detto le ragazze, quindi... Non vorrei dare giudizi rispetto a una vicenda che conosco per quanto hanno detto le ragazze. Allora le chiediamo di dare un giudizio allora politico, distinguiamo il suo ruolo di avvocato di parte civile. Se vuole dare un giudizio politico sulla vicenda, è chiaro che come emerge secondo lei il direttore del TG4 da tutto questo? Io guardi, l'unico commento che mi sento di fare in questa vicenda è che trovo imbarazzante che il direttore di una testata giornalistica utilizzi la sua testata giornalistica che poi fa capo al presidente Berlusconi per commentare una vicenda sua personale, esclusivamente personale. Beh, diciamo che c'era qualcosa da rispondere dopo la pubblicazione di queste intercettazioni, di questi interrogatori. I cittadini normali, quando vengono chiamati in un qualsiasi giudizio o chiamati in causa per reati o anche per qualsiasi altro giudizio, anche solo di tipo civilistico, non hanno a disposizione una testata giornalistica per dare la loro versione dei fatti. Io credo che la sua versione dei fatti la dovrà dare davanti alla magistratura, come abbiamo fatto noi, e poi ognuno, come diceva bene il dottor Parenzo, si assume le sue responsabilità delle cose che dice. Cioè, lei dice, l'anomalia è il conflitto di interessi alla fine. Scusi? L'anomalia è il conflitto di interessi, andando a riassumere. Beh, voglio dire, mi pare un po' anomalo come comportamento, questo sì, lo rilevo. Cioè, anomalo il fatto che Fede vada stasera davanti alle telecamere, al contrario di altri cittadini italiani, a esprimere la sua opinione su una vicenda in cui è coinvolto direttamente. Questo mi permetto di dirlo, sì. Senta, quello che ho notato in questi interrogatori è che queste ragazze non raccontano ovviamente di serate certamente spinte, certamente perverse, come dice lei, hard se vogliamo, però non ci sono racconti di rapporti sessuali espliciti. Scusi se le faccio questa domanda, perché allora intanto loro hanno partecipato solo ad una festa ed è quello l'unico episodio, sì, una festa, che sì, raccontano, sì, sì. Non mi pare che le ragazze abbiano parlato di questo. Né me ne hanno mai parlato, cioè quello che hanno detto. Non c'è nessuna rilevanza penale, allora, avvocato, cioè in quello che abbiamo letto oggi su Repubblica, che prima il direttorissimo ha riportato questo oggetto con il pene che veniva, passerebbe, è stato passato, eccetera eccetera, però non c'è una rilevanza, dove sta il reato? Cioè una festa magari, ma infatti il reato non riguarda Berlusconi in questo caso, è una vicenda che riguarda un altro procedimento, un altro procedimento, ma dove sarebbe il reato dell'altro procedimento? Oggi tutti i giornalisti che mi hanno chiamato hanno cercato di portarmi a parlare su questo terreno. Io non voglio assolutamente commentare le dichiarazioni delle ragazze né se hanno rilevanza penale o meno, questo sarà la procura a valutarlo nel capo di imputazione che formulerà o ha già formulato, non lo so, quando ritornerò a Torino lo verificherò e saranno poi i magistrati a giudicare. Preferirei in questo momento non commentare queste circostanze e fare io valutazioni che non credo competano a me in questo momento. Senta, secondo lei il Bunga Bunga è qualcosa di perverso? Non lo so. Io non l'ho mai praticato, non so dirle. E sa che cos'è? Si è fatto un'idea di che cosa sia? Non lo so, guardi, ho preso atto di quello che hanno detto le ragazze, però non so dirle più di tanto. Grazie a Dio non ci sono mai state queste feste. Grazie a Dio, magari. No, non è necessario, no, adesso non dica cose di cui potrebbe pentire. No, io no, assolutamente. Mi sono trattenuto, mi sono fermato sull'orlo del precipizio. Cioè di per sé sapere che uno o un altro fanno un'orgia, adesso non voglio entrare nel merito, di questo si sta parlando, no? Sì. Beh, di per sé può essere, come dire, cattolicamente deplorevole da un punto di vista della moralizzazione della sessualità. Poi però a partire dal costume delle persone, cioè laddove non c'è reato, esatto, come un'orgia, cioè perché si scandalizza reato, lei, signore, di che cosa da che cosa è scandalizzata all'interno di quello che ha letto, di quello che l'hanno riferito queste ragazze, da che cosa si scandalizza lei, di cosa si scandalizza? Io non è che mi scandalizzo, trovo come dire fuori, oltre le righe, il fatto che delle ragazze così giovani siano state invitate ad una festa dove, come dicono le ragazze, come c'è scritto oggi su Repubblica, sostanzialmente il messaggio era o anche tu partecipi a, come dire, con questi comportamenti, oppure la tua carriera, che forse non è neanche mai iniziata, è stroncata. Cioè quali comportamenti? Cioè, comportamenti esplicitamente sessuali? Cioè, quelli comportamenti che le ragazze hanno raccontato aver visto. E quindi, voglio dire, io credo che questo sicuramente possa avere una rilevanza penale, però ripeto, non voglio dire altro perché E che tipo di reato si potrebbe configurare, scusi? Beh, anche una violenza sulle ragazze, sia psicologica, morale, come dire. Ma anche da parte del Presidente del Consiglio, dice lei? Beh, non lo so, adesso questo non lo voglio dire. Sarà il magistrato ad accertarlo. Però lei si può ipotizzare una cosa di questo tipo? Diciamo, sicuramente la situazione era quella, per quello che sono le dichiarazioni delle ragazze. Poi, ripeto, senta, il magistrato valuterà la loro serietà e attendibilità. Ah, non c'è dubbio. Nel passato lei ha partecipato anche a dei sit-in, delle manifestazioni, un giro tondo davanti alla Camera sulla, per le donne, no? Per la dignità delle donne, se non sbaglio. In quanto, in questo caso, nella veste di senatrice o di avvocato? Sì, no. Mi scusi se ironizzo un po' su questo, perché io sin dall'inizio le ho detto che secondo me questa distinzione, come qualche volta dall'opposizione si dice, beh, non si può distinguere tra l'avvocato Ghedini e l'onorevole Ghedini, uno potrebbe dire la stessa cosa anche della sua posizione. Però insomma, lasciamo perdere. Però fanno le leggi, diciamo. Vabbè, sì, là in questo caso fanno le leggi, va bene, quindi lasciamo perdere. Ecco, secondo lei la concezione che ha Berlusconi è di disprezzo nei confronti di un certo tipo di donne? Cioè, Berlusconi disprezza delle donne e non altre? Cioè, per esempio, le donne che sono al governo, secondo lei, che appartengono a un certo tipo di tipologia o no? Diciamo che allora ci sono state delle scelte, almeno appaiono così, fatte nell'entourage, diciamo, del PDL, che non appaiono scelte completamente legate alle capacità e al merito delle donne che sono state scelte. Per esempio? Mi sembra che la Minetti sia un caso eclatante. La Minetti, però non è al governo. Scusi? Nel governo anche ci sono. No, vabbè, però voglio dire, al di là del governo, cioè proprio un criterio di scelta, un metodo di scelta. Devo anche dire però che purtroppo questo sistema elettorale consente anche queste cose, perché se le donne avessero delle chance in autonomia, probabilmente anche quelle donne che accettano certi tipi di percorso non lo farebbero. Lei l'ha chiamato una volta utilizzatore finale, Berlusconi. Io l'ho chiamato utilizzatore finale, non lo so. L'hanno chiamato in tanti utilizzatore finale, forse l'avrò detto anch'io. Cioè, secondo lei lo è? Nell'accezione una volta spiegata. Le ripeto, quello che mi pare di poter dire è che siano emersi dei rapporti non troppo corretti col genere femminile da parte del Presidente, però poi, ripeto, queste sono le mie valutazioni. Bene, senatrice, grazie di essere stata con noi, grazie. 19:30, Parenzo, torniamo subito dopo la borsa. Sì, davanti a me l'onorevole Santanchè che ti saluta, eccola qua, Cruciani. Cruciani, il mio amico Zanzara, mi manca moltissimo. Beh, onorevole Santanchè, siamo qui, esclusiva clamorosa, parla la Santanchè, hai visto? Cruciani mi manca moltissimo. Vabbè. Cruciani mi manca, le agenzie stanno già battendola. A dopo. Ho scritto due settimane fa sul mio sito un articolo dal titolo "Datemi una pistola, un euro e sistemo il paese". Un euro mi serviva per accendere la candela alla Madonna perché il colpo riuscisse bene. La cosa più grave è quello di uccidere fisicamente Berlusconi, perché diventerebbe un martire, un simbolo. Poi, naturalmente, tutti i paesi avrebbero un monumento Berlusconi. Naturalmente la statua dovrebbe essere nuda, no? Con il pene molto eretto, in modo tale che possa fare anche da portaombrello. Però, dico, a un certo punto il rischio è questo, che diventi un simbolo, che diventi veramente... Poi avremo in tutta Italia le immaginette, no? Le immaginette sacre per invocare chissà che cosa, quali grazie da Berlusconi. Questa è la mia idea. Io, a vantaggio degli atei, lo dico proprio con una battuta, è che loro non credono, io credo in un Padre Eterno che può compiere un miracolo. Allora, che non rimanga lì secco subito, no, deve star lì 40 anni disteso sul letto in stato vegetativo a patire tutte le cose che ha fatto all'Italia, che ha distrutto l'Italia, ha distrutto la democrazia. Questa era Don Giorgio De Capitani ieri sera qui alla Zanzara. Parenzo, sei ancora scioccato da queste frasi? Ha detto anche Don Euro. Don Euro, esatto. È un bel soprannome gli hai dato, Don Euro. Leggo oggi su Repubblica, tra l'altro, che il deputato coordinatore del PDL Mantovani, te lo ricordi, no? L'organizzatore delle clac davanti al tribunale, ha fatto un regalo durante una delle tante scene che sono in corso in Sce PDL, un regalo a Berlusconi, un toro di cristallo Swarovski, un toro di cristallo Swarovski, a due palle come le tue, Silvio. E Berlusconi, nonostante l'ora tarda e la giornata alle spalle particolarmente gravosa, non ha rinunciato alla battuta. Il paragone mi sembra particolarmente appropriato. È così. Voglio dai però a Milano. Voglio a però Milano, che cosa c'è a Milano? In galleria c'è un toro, no? In galleria c'è un'usanza che i turisti fanno sempre quando vengono in galleria, che è quello. Hai capito, no? Non lasciamo perdere le tue porcherie. No, mie, quelle che fanno i turisti. Va bene, va bene, lasciamo perdere. Col toro, vale. Sì. No, il traffico ancora no. C'è tempo. C'è però un'altra cosa, perché voglio dare una bastonatina ai magistrati, ma non perché la debba dare per forza, perché naturalmente io poi ragiono sulla base di quello che sento, non in base a pregiudizi. Cascini, certo. Segretario dell'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, e sconcio il tifo da stadio sotto il tribunale. Finché noi dovremo assistere a questo sconcio, fatemelo dire, di organizzare manifestazioni di piazza sotto il tribunale, guardate che è una china pericolosa. No, nel momento in cui si sposta la giustizia su un caso singolo, dall'aula di tribunale alla piazza, è un pericolo enorme, in primo luogo per la persona coinvolta nel processo, perché si incide sulla serenità dei giudici. Beh, non si ricordano, devo dire, espressioni simili quando ci sono state soprattutto manifestazioni di sostegno ai magistrati, bravo, contro i ladri, i corrotti, eccetera, eccetera. Per cui, signori sindacalisti dei magistrati, rappresentanti dei magistrati, su queste cose, ognuno fa tutte le manifestazioni che vuole se sono autorizzate, poi e si possono giudicare le manifestazioni. Io le considero inutili, totalmente inutili, forse anche controproducenti, però questo qua è un giudizio politico. Non è che un presidente di un tribunale o il segretario dell'ANM può dire le manifestazioni sono uno sconcio. Ma quale sconcio? Un magistrato non può considerare uno sconcio una manifestazione, quello è un giudizio politico sulla manifestazione, no? Politicamente io ho detto che andare nel 92-93 davanti al Palazzo di Giustizia di Milano a battere le mani ai magistrati che incarceravano persone corrotte era una vergogna, fu una vergogna. Oggi a pari merito io dico, non cambiando opinione, che le aule di tribunale non devono essere assediate da destra e da sinistra. Vabbè, cioè, comunque, poi ogni manifestazione è diversa, perché in questo caso non si invocano le manette per nessuno, Ma no, perché c'è comunque sì, hai ragione, il principio è un principio che si dice che c'è una verità giudiziaria, che è una verità quella che viene fuori dai tribunali, e poi però c'è anche un'altra verità, volendo, ma la verità giudiziaria è quella dei tribunali, o la si accetta o non la si accetta, punto. Se no, va bene. Andiamo a Pisa, Alessandro. Buonasera. Dica. Non so, io volevo parlare, no, di qual è lo scandalo di queste feste. Sarà un po' così scontato e ovvio, no? Ma l'argomento è questo. Dunque, ci sono ragazze poco vestite che simulano rapporti orali. Ci sono dei vecchi tanerosi che si circondano di ragazze. Non so, tutti ridono e scherzano, bevono. Beh, mi sembra una serata normale in una discoteca di una grande città, no? Beh, insomma, sì, certamente, Alessandro, ma se se ne parla è perché questi festini, queste feste coinvolgono il Presidente del Consiglio. Poi, ripeto... Questo sono perfettamente d'accordo. Il punto non è questo qui. Io, guardi, sono anche un berlusconiano e secondo me lui esagera, va bene? Però non c'è niente di penalmente rilevante. Mi sembra che anche tutte queste denunce, testimonianze, eccetera, servano soltanto ad abbattere il mostro, insomma, sostanzialmente, no? Tutti si scandalizzano, Parenzo, che è simpaticissimo, ma insomma, si scandalizza anche lui. Mi ricorda un amico che avevo qua che si chiamava Ciaccina. No? Che fa Ciaccina? Ciaccina faceva tutte le volte che c'era un argomento, pipipi, accendeva la trombetta, sapeva tutto lui, il codice in mano, i cavilli, le cose, eccetera, eccetera. Ciaccina molto umilmente, caro radioascoltatore, le dice che va tutto bene la festa. Caro Ciaccina, che ci dici, Ciaccina? Ciaccina è bellissimo, quindi voglio che tu... No, io mi sono permesso, Parenzo, perché... Io mi sono permesso, Parenzo, perché lei abita a Siena, quindi il carattere toscano, lo capisce? Ma io sono per la battuta irriverente, Dio buono, ma figuriamoci, Odè, non c'è... Calma. No, Odè, dopodiché, mettiamoci d'accordo... mettiamoci d'accordo, Ciacina mia, però, perché se lei legge i giornali a metà è un problemino tuo, no, caro Pisano. Assolutamente, no, non facciamo discorsi sinistrosi, io le leggo tutti i giornali. Allora dovresti sapere che se tu vai a Arcore, perché poi ti promettono che devi, che fai la velina o che ti danno dei soldini per fare determinate cosine, quello a casa mia si chiama reato, a casa tua non lo so come si chiama. Vedi Parenzo, a Pisa si chiama reato come a Siena, ma il punto è un altro. Il reato l'ha commesso il re sole che ama circondarsi di tutta la corte, o l'ha commesso qualche cortigiano? Perché sai, siamo italiani, gli italiani si vantano, vai, c'ho la conoscenza di qui, c'ho la conoscenza di là. Guarda caso, per dire, anche queste due ragazze che hanno fatto questa testimonianza, la gente l'ha portato dalla conoscenza giusta. In Italia è così. Il re sbaglia. Questo ha ragione, questo è vero, questo ha ragione, certo. Va bene, Alessandro, grazie, abbiamo capito. Saluti. Andiamo a Milano, Paolo. Pronto? Sì, dica pure. Ah, salve Cruciani. Senta, io ho chiamato già ieri perché ho tentato di intervenire durante la conversazione con il Don Giorgio De Capitani. Sì. Ascoltando la sua trasmissione, ormai lo faccio da anni, e niente, mi sono imbattuto in questo sproloquio del prete che è stato definito bisognoso di TSO, ed effettivamente lo è. Ho ascoltato attentamente la conversazione, a un certo punto però io mi aspettavo che lei intervenisse per bloccare lo sproloquio del folle. E perché avrei dovuto, scusi Paolo, a parte che lo interrompevo continuamente, gli chiedevo... No, ma io ho sentito... Ma non vorrei che si trasformasse ogni tanto questa scusi un attimo Paolo, non vorrei che questa trasmissione si trasformasse continuamente in un processo a come facciamo le domande a chi è ospite, al modo di condurre. Io credo che gli ascoltatori se ne fottano di queste cose, però comunque andiamo. No, ma guardi, io non sono convinto di quello che sta dicendo lei. Io invece mi sono fatto un'altra idea. E l'idea è quella che sto tentando di esporre in questo momento. Mi dica. Siccome io l'ascolto da anni. Mi sono reso conto che il format della sua trasmissione in questo ultimo anno è cambiato sensibilmente, nel senso che... Ma è quello che dico io, stiamo parlando di questa roba qua, comunque dica. No, è proprio questo che, ho capito. Non riesco, io sono un ascoltatore di quelli che seguita. Ecco, mi faccia completare però senza... Sì, ma io la faccio completare, però stiamo parlando esattamente della cosa di cui stavo parlando prima io, cioè si parla di questo... È esattamente quello che io manifesto in questo momento, è un mio disagio da radioascoltatore. Va bene, io ne prendo atto. Nel constatare che lei ha deciso, o per una scelta aziendale o per altri motivi, e adesso gliene dico anche quali sono i motivi, di modificare il format della sua trasmissione. La trasmissione anni fa era una trasmissione che era degli ascoltatori, in cui gli ascoltatori potevano intervenire e esprimere il proprio pensiero. Oggi invece lei ha deciso di trasformare la trasmissione con l'introduzione di un ospite, che è una figura fissa, che con l'unico scopo... Mi sto annoiando profondamente. Lei si annoia, ma le dico qual è il mio pensiero. Ho capito, mi annoia parlare del format della trasmissione, abbia pazienza. Ma per forza, perché... Ma non è per forza, parli di un argomento di attualità di oggi, invece di parlare del format... L'argomento di attualità è il format della sua trasmissione. Benissimo, allora Paolo, aspetti un attimo, perché a questo punto abbiamo altre urgenze rispetto al format della trasmissione, però io non voglio eludere la sua domanda, abbiamo cose di attualità molto importanti. Un attimo solo, resti lì, 800 24 00 24. Parenzo, dalla camera, tu sei davanti alla camera, alla camera, sempre insieme a questa gente che probabilmente, adesso non voglio dire una cosa grossa, però insomma passa le sue giornate a manifestare con i cartelli davanti, le solite cose, va bene, lo sappiamo. Comunque lasciamo perdere e ci trasferiamo al Senato, dove c'è il senatore Maurizio Gasparri. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Come sta, senatore? Bene, lei come sta? Guarda, senta come la introduco, senatore, senta. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute. Allora, mi spieghi la sua passione per Zarrillo, questa me la deve spiegare, senatore. Ma guardi, perché ho raccontato, lei è molto gentile, in un'intervista al Panorama, che appunto raccontando momenti importanti della sua vita, ricordo quella sera del 28 marzo del 94, vincemmo le elezioni sorprendentemente, con Berlusconi che era appena sceso in campo, andai in uno studio televisivo per quei commenti a caldo in diretta via Teulada, ed era un programma di musica e commenti elettorali, e mentre entravo c'era appunto questa canzone, questo cantante Zarrillo che cantava questa canzone, che quindi mi ricorda quella sera di particolare gioia, perché fu una grande... Ed è una canzone che le è rimasta... E quindi la canzone mi è rimasta impressa, insomma, oltre che essere una bella canzone, per me richiama un bel momento, come si dice, la musica, no? Richiama ricordi, vabbè, a un forza, politico, per forza. I ricordi sono quasi sempre legati alla politica. Senta, com'è che questa, adesso le faccio subito una domanda molto soft, che riguarda il calcio, che è un'altra passione della sua vita. Senta, ma com'è che non si conclude questa vicenda degli americani e della Roma, che è la sua passione? E oggi io quasi quasi volevo fare qualche telefonata, faccia qualche telefonata che conosco, perché io sono romanista, sono un po' preoccupato, volevo sentire, però oggi ho avuto un po' di cose politiche da fare, ma domani, forse venerdì trovo il tempo di fare un paio di telefonate da tifoso, perché ho detto, quando ho incontrato alcuni di coloro che trattano questa vicenda, che ovviamente decidono per il meglio, ma tengano conto che Roma è una grande piazza, un grande pubblico, una grande realtà, cioè non è che ci possono... riteniamo che la squadra finisca in buone mani. Vedo qualche incertezza in questa trattativa, in questa fase la cosa mi preoccupa. Però lei americano o italiano non gliene frega niente, no? Beh, mi pare che la pista americana ormai si sia fermata. Ho sentito parlare bene di questo gruppo, però vedo questo Di Benedetto che si muove in maniera un po', come dire, poco sicura, diciamo così. E allora sono un po' preoccupato. Se fossero dei buoni americani si avvererebbe la profezia di Alberto Sordi, dell'americana Roma, America me senti, si ricorda quando lui cercava di collegarsi col padre furibondo. Ci senta. Parenzo, che succede davanti alla camera? Davanti alla camera continua la maratona oratoria dell'Italia dei Valori, ci sono, come ti ho detto prima, anche alcune bandiere di futuro e libertà e del popolo. Ha capito, viola. Senatore Gasparri, lei avrebbe mai potuto immaginare se bandiere di fini insieme al popolo viola? Sta tornando la Santanchè di nuovo, sì, sta di nuovo. Falcando la piazza, la piazza, partono le urla, ma quali urla? Ma Parenzo, ma che stai facendo? Partono le urla. La cronaca. Ma urla di che? Ma le urla partono sempre. Senti. È normale. È uscita la Santanchè. Senti qua, in diretta. Radio 24. Parenzo. E che? Vabbè, vergogna, la solita cosa, vabbè, che vogliamo fare? Che vuoi che dicano? Vergogna. Non è che... Siete moderati, calma, siete liberali. Ma chi lo dice? Il popolo viola moderati, non diciamo stupidaggini. Mi allontano un attimo però, Senatore Gasparri, ma lei poteva mai immaginare le bandiere di fini insieme a quelle del popolo viola? Guardi, ho visto tanta confusione ideologica nella testa di Fini e intorno a Fini che non mi meraviglia affatto. È un momento di chiarezza. Se uno sta col popolo viola, con Di Pietro, con i comunisti a urlare e insultare, vuol dire che ha perso ogni riferimento chiaro e certo, e quindi questo non porterà né consensi né fortune politiche. Senta una cosa, però non bisogna dimenticare che anche lei era, è vero, il 93, le cose cambiano, anche lei andava davanti alla Camera a fare un po' di casino all'epoca di Tangentopoli. Come no? Io ero deputato, andavamo a salutare dei ragazzi del Fronte della Gioventù che con un tono goliardico, con delle magliette con su scritto "a rendere che siete circondati", fecero una pacifica e tranquilla manifestazione intorno al Parlamento. Fu fatta addirittura un'indagine per attentato a organi costituzionali, indagarono pure nei parlamentari, poi fu tutto archiviato perché l'indagine era un'indagine assolutamente ridicola. Cioè lei li chiama assedi goliardici, però dicevate la non era una assedia, era una manifestazione goliardica, invece vedo carica di rabbia, quasi di violenza. Mi preoccupano queste manifestazioni. Cioè queste manifestazioni sono violente secondo lei? Beh, ci sono stati tentativi proprio di aggressione a parlamentari, esponenti di governo, ci sono toni preoccupanti e ci sono stati anche manifestazioni intorno al Senato, quelli che hanno tentato di entrare nel portone, quello che col casco colpì un ragazzo, un altro manifestante, quasi uccidendolo, ricorderà, bombe carta e altre cose utilizzate in maniera assurda, e quindi ricordo anche quelle manifestazioni intorno al Senato. Ma queste di adesso come sono secondo lei? Vabbè, non le ha viste, però esagitate. Però anche voi andavate là, dire Andreotti in galera, le monetine, ricordava Parenzo, c'erano anche esponenti della destra lì davanti al cocero. Non è che fu lanciata una monetina da questi ragazzi e non con lo spirito aggressivo di queste manifestazioni, e quindi mi pare che è sproporzionato l'accostamento. E comunque lì ci fu indagine, accuse incredibili che poi furono archiviate. Qui invece sembra che debbano avere un premio questi manifestanti, una medaglia. Parenzo, dove sei? No, ricordo, sì, mi sono un attimo spostato perché sennò urlavano e non riuscivo a collegarmi. No, ricordo le manifestazioni del 92-93 quando dentro l'aula Gasparri, Butti e tanti altri del movimento sociale, anzi, del movimento sociale dell'epoca avevano le spugne addirittura e alzarono le spugne in aula dicendo colpo di spugna, avevano le magliette nere con sopra scritto Bettino, ridacci il bottino. E il mitico decorato si incatenò davanti a Palazzo di Giustizia a Milano in quell'epoca. Cioè, questo era il clima del 92-93. Vabbè. Sì, no, perché... Ma guardi, ma il clima della protesta morale c'era. Poi cosa accadde? Che dopo un po' di tempo scoprimo che Di Pietro, andando alle botteghe oscure, non incriminò i capi del partito del PDS, si chiamava allora, perché disse che non sapeva chi aveva preso i soldi dalla tangente Enimont. Allora, quando tu, di fronte a responsabilità analoghe, uno colpisce e l'altro lo lascia andare, vuol dire che non c'era sincerità in quella inchiesta da parte di Di Pietro, che difatti poi si è candidato in un collegio del Mugello d'accordo con il PDS, ha fatto il ministro con Prodi, ha fondato un partito, quindi Di Pietro ha fatto una manovra politica, non un'inchiesta di moralizzazione, quindi abbiamo visto che le cose non avevano funzionato molto bene, che non toglie che molti di quelli che erano stati indagati in quell'epoca fossero responsabili di fatti di corruzione. Il grave fu non colpire tutti i fatti di corruzione con la stessa determinazione. E allora cambia un po' il quadro. Allora, adesso non torniamo però al 92-93, Parenzo. Parenzo, infatti sto dicendo, anche se poi ricordava giustamente che per un periodo Berlusconi voleva fare Di Pietro ministro. Comunque, lasciamo perdere, sa cosa ha detto? Certo, perché si pensava ancora che fosse un angelo vendicatore, poi dopo si scoprì chi era. Che copriva la sinistra, dice lei. La coperta. Saviano ieri ha detto una cosa, vorrei dare un giudizio flash su Saviano. Ha detto a Perugia: se ti poni contro il governo non arriverà la polizia politica, ma sai che prima o poi arriverà qualcosa sul tuo privato. Frasi incommentabili, insomma. Francamente credo che Saviano stia dicendo molte cose sbagliate e non ha il monopolio della legalità. Io ho fatto approvare leggi per combattere la mafia quando Saviano andava ancora alle scuole elementari, ho prorogato io il 41 bis in Parlamento quando i partiti per i quali Saviano fa il tifo si dimenticavano. Ma è ossessionato? Saviano sta zitto, dico una cosa molto grave, Saviano sta zitto di fronte allo scandalo che io e gli altri stiamo denunciando del carcere duro, il 41 bis cancellato ai tempi di Scalfaro, Conso, Ciampi e Mancino e Giuliano Amato, e lui non sta dicendo niente, sta zitto di fronte alla nostra azione di denuncia di esponenti della parte politica che lui sta di fatto sostenendo e che inginocchiarono lo Stato davanti alla mafia. Ma è un militante politico ormai. Saviano, perché stai zitto? Io, noi facciamo la lotta alla mafia, tu stai zitto di fronte allo scandalo del 41 bis cancellato al tempo di Scalfaro, Mancino, Conso, Amato. Perché stai zitto, Saviano? Parenzo, diglielo. No, però è sbagliato, posto così è veramente sbagliato e basso, perché vuol dire però torniamo tra un attimo, questa è la pubblicità, dopo ancora il senatore Gasparri, gli ascoltatori, 800 24 00 24. Qui in diretta con la Zanzara alle 8 in punto con il senatore Maurizio Gasparri in diretta dal Senato, presidente del senatore del PDL, David Parenzo invece davanti alla Camera. Senatore Gasparri, però Saviano parlava non della vicenda della mafia, della macchina del fango, la macchina della famosa macchina del fango. Sì. Io non condivido quello che ha detto Saviano su queste cose, che lui sta zitto sullo scandalo del 41 bis cancellato nel 93 a centinaia di criminali dalla camorra, dalla mafia, dalla banca, quando comandavano Scalfaro al Quirinale, Mancino al Viminale, Ciampi a Palazzo Chigi, ancora di lui. Però lui parla di un'altra cosa. Quindi io dico questa cosa che è molto grave per una persona che dice di fare certe lotte, io le ho fatte prima, più di lui e continuo a farle. E trovo molto sconcertante il silenzio sul più grave scandalo nella resa dello Stato italiano al crimine. E sulla sua critica alla macchina del fango non vuole dire niente? Sul fatto... Noi ne subiamo tanto di fango, di fango. Anche da Saviano? La macchina del fango, dei giornali sui quali scrive anche lui, che spargono fango da decenni. Dunque anche Saviano sparge fango nei confronti vostri? Non ho detto questo, ho detto anche i giornali su cui a lui è capitato di scrivere spargono fango. Parenzo, vogliamo fare la domanda che facciamo in questi giorni a tutti, più o meno gli esponenti del PDL che vengono da noi? Ieri l'onorevole Miccichè è stato molto esplicito da questo punto di vista, senatore Gasparri, sia nel giudizio sulla Russa, fra poco glielo chiederemo, molto duro, il coordinatore, un fascista, è rimasto arrogante, sul eccetera. PDL, su tutto, c'era sul PDL, ma quello è un altro discorso, sul processo breve, su quella, sulla legge sul processo breve che lo stesso Miccichè sta votando. Dice Miccichè, viene fatta per salvare Berlusconi. Ha detto esplicitamente questo. Senatore Gasparri, vuole dire la sua? Viene fatta esplicitamente per salvare Berlusconi? I tempi dei processi, noi al Senato l'abbiamo approvato più di un anno fa, contiene anche norme sulla prescrizione che vogliono evitare degli abusi, perché nei confronti di Berlusconi sono stati compiuti abusi. C'è un processo in cui un tale Nitz, che sarebbe stato secondo una tesi corrotto, si calcola il tempo del reato, non da quando lui avrebbe ricevuto i soldi, la corruzione vuol dire prendere dei soldi, ma da quando li avrebbe spesi, e se non li avesse mai spesi il reato non ci sarebbe stato. Però questo è il merito del processo. Quindi, senatore Gasparri, è una cosa che dimostra come si applicano in modo arbitrario dei principi stravolti a danno di Berlusconi. Dunque si vuole fermare il processo. Se si facessero norme per riequilibrare questi abusi, sarebbero norme giuste. Dunque, norma giusta, perché in questo modo si sterilizza. Afferma una corretta applicazione del diritto. Si sterilizza il processo Mitz in questo senso. È corretta perché blocca il processo Mitz. Ci sono abusi come quelli del calcolo del tempo della prescrizione nel caso Mitz, che avviene, per non fare esaurire il processo, da quando Mitz avrebbe speso i soldi che avrebbe ricevuto, non da quando li ha ricevuti. Vabbè, quello però viene corrotto. L'abuso deve essere certificato da qualcuno, senatore Gasparri. In questo caso è stato applicato questo termine cervellotico. No, questo è stato applicato, d'accordo. Ma se uno studente lo avesse detto a un professore, l'avrebbero bocciato subito. Dunque, magistrati sommari da questo punto di vista. Allora anche la condanna di Mills è una condanna politica, cioè l'avvocato Mills è stato condannato dal tribunale, quindi anche quella condanna però è una non entriamo. Ma io parlo della vicenda di Berlusconi, che nega ogni responsabilità, ha perfettamente ragione perché ha usato argomenti convincenti e viene processato tenendo in vita artificiale questo giudizio grazie a un modo cervellotico illegale di calcolare il tempo di prescrizione e dunque questa norma sul processo breve viene fatta per bloccare questo. La norma sul processo europeo viene fatta per garantire maggiore rapidità dei processi, peraltro rispetto a come l'abbiamo fatta al Senato è molto più labile, perché il tempo che si stabilisce, molto lungo in verità, non è un vincolo obbligatorio. Se il giudice lo supera viene solo segnalato, non è che viene cancellato il processo. Sui tempi di prescrizione si fanno degli aggiustamenti che lasciano amplissimo tempo per fare il giudizio, però cancellano il processo Mitz. Però cancellano il processo Mitz da questo punto di vista. Come siamo tutti, non si concluderà mai, perché è certo che anche con le leggi vigenti non si arriverebbe mai al giudizio definitivo, perché ci sarebbe comunque la prescrizione. Quindi lo sanno tutti che quel processo, anche se non si fa questa legge, non sarebbe portato a compimento. Dunque non serve a Berlusconi, questa legge non serve a Berlusconi, dice lei. Introduce anche norme sulla prescrizione che rappresentano un tentativo di correggere degli abusi che sono in corso. Ma serve a Berlusconi questa legge? Ma potrebbe anche incidere su quel processo che è stato tenuto in vita artificiosa grazie a degli abusi. E che comunque il processo Mitz sappia che non andrà mai a termine, perché comunque la prescrizione, che ci sarebbe in ogni caso nei prossimi mesi, non consentirebbe di arrivare a un giudizio definitivo. Parenzo. Domanda per Gasparri, ormai la prescrizione. Superiamo questa storia della prescrizione, l'abbiamo già data. No, è legge. Allora facciamo così, parliamo soltanto. Non è legge ancora. Non è legge. Non è legge, a voglia. Manca poco alla Camera, ritorna. Vabbè, alla Camera, torna al Senato. Ho capito. Diciamo che è vicina. I numeri. Ma che vicina? Sono. Ancora in Italia non c'è mai niente di certo. Diciamo che non è vicina. Lasciamo per parlamentare. Qualora diventasse legge, Berlusconi dica che non la utilizzerà. Ma e allora qui non c'è conflitto di interesse. Ma perché dovrebbe utilizzare una legge dello Stato se ci sarà, quando vengono, perché come lei sa, le leggi la prescrizione Stato. Si può anche, l'imputato può anche decidere di non chiederla. Farebbe male se non si tutelasse di fronte a giudizi faziosi, prevenuti e condotti forzando le norme dello Stato vigente. Allora, se fosse lui la utilizzerei. Se fosse Berlusconi la utilizzerebbe. È colpito da un modo fazioso e illegale di esercitare le azioni giudiziarie nei suoi confronti. Passiamo all'altro argomento, Parenzo, che dici? Quindi No, no, quindi ho capito, il problema è neutralizzare questi magistrati, questo è il punto, il virgolettato. Neutralizzare, non fare lotta politica abusando della funzione di magistrato. Quindi neutralizzare questi magistrati, cioè, dice Parenzo. Neutralizzare neutralizzare, non abusare della giustizia per fini politici. E anche i magistrati del caso Ruby agiscono in questo modo? Il procuratore della Repubblica di Milano disse, andate a vedere l'agenzia dei primi di novembre, non c'è nessun fatto di rilevanza penale in quanto è accaduto. Poi è scoppiata tutta questa inchiesta. Quindi o Bruti Liberati è mentira o non lo vabbè, so. Quello è, è il passato. Le parole di Bruti Liberati. Sì, vabbè, quello parlava di una cosa, poi sono intervenute le inchieste. Ma la Boccasini secondo lei perseguita Berlusconi? Diciamo che non lo ama. Vabbè, questo mi sembrerebbe piuttosto strano. Oddio, questo non è male. È Gasparri, Ogni tanto, Ale grande. Senta, ma a proposito, parliamo di Rai, no? Ma ha letto che la 7 potrebbe acquistare Fabio Fazio? Mica lo acquista, potrebbe offrirgli un contratto, perché è un professionista. Certo. E vedrà lui cosa gli ma sarebbe una perdita per la Rai, secondo lei? Sono stato da Fazio ospite qualche tempo fa, mi ha detto che lui da 28 anni che lavora in Rai, gli auguro di lavorare ancora a lungo in Rai o in televisione, è una persona che ha successo e quindi è nella condizione di scegliere. La mia previsione è che resterà in Rai. E Santoro invece l'anno prossimo si faranno zero o no? Appunto, un militante politico che fruisce gli spazi televisivi e fa la sua battaglia politica, beato lui. Addirittura militante politico che militante politico che ha record di ascolti però. Si è candidato alle elezioni. Sì, no, certo, ma ci sono tante militante politico che può parlare in diretta in televisione, settimana dicendo quello che gli pare. È fortunato. Ma lei ci è andato però, non ricordo le presenze. Qualche volta sono andato, una volta l'anno, Ma glielo dice quando va là, cioè quando ci va lei non è più un militante politico, oppure ci va perché comunque è corretto andarci, eccetera. Non l'ho sentita, scusi. No, scusi, lei ci va nonostante il fatto che sia un militante politico? Beh, ma io faccio tanti dibattiti pure con i politici, scusi, faccio dibattiti con i miei avversari, ma non è quindi dunque, quando... lui è un conduttore, lui non vuole dire un'altra parte. Quando andano le altre trasmissioni, diciamo ci sono dei militanti politici a me avversi, no? Ma c'è anche il conduttore con militante politico avverso, quindi ce n'è uno in più, non è che la cosa è molto ma senta, ma porta voti come disse Ghedini una volta al centrodestra oppure no? Oppure secondo... ai nostri elettori, li fa arrabbiare, quindi. Poi loro si mobilitano di più. Che dicevi Parenzo che fa gli ascolti, no, Parenzo diceva che fa gli ascolti, è un militante politico che fa un sacco di ascolti. Siccome Gasparri è come noi giornalista professionista e ha lavorato a lungo come giornalista e ha definito Santoro un militante politico, dico sì, sarà anche un militante politico, io non lo credo, ma è uno che fa il 23% di share. Allora il militante politico Gasparri vada anche lui su Rai 2 e faccia. Ma non me lo danno lo spazio a me, ha ragione, potrei accettare la sfida se mi dessero lo spazio, però poi c'è il e fare questo per molti anni, farlo bene, avere molti soldi a disposizione, e chi lo sa, ma è una sfida impossibile perché a questo punto ho fatto altre cose nella vita e Santoro sono 20 anni che fa il militante politico in televisione, quindi è riuscito a crearsi un audience nell'arco di tempo molto lungo che lo ha visto e lo vede in televisione. Senta, le voglio fare un'ultima domanda che riguarda Scajola. Come lo vede lei da capogruppo del PDL, nel governo o nel partito come ruolo? Coinvolto in un gruppo dirigente, poi i ruoli, guardi, possono essere gli uni o gli altri, però deve far parte di una squadra di guida del centrodestra. E Micichè? Che ha detto che è la Russia dal PDL ha fatto un altro partito, non rispondo a quelle polemiche che ha fatto perché, come dire, non vale la pena. Perché non vale la pena? Perché si alimentano polveroni inutili a beneficio di chi li solleva. A beneficio solo di Micheletti. Che cosa ha un senso di, secondo lei, perché continua a dire che la Russia è un fascista, la Russia è violento, arrogante? Non ho la minima idea e la cosa mi preoccupa poco, sinceramente. Beh, ha un rapporto stretto con Berlusconi, Ma è uscito dal partito che guida Berlusconi. Se era in un rapporto stretto rimaneva nel partito di Berlusconi. E magari Berlusconi è contento di questa della creazione di è forza del, che se n'è andato, di forza del sud, che ne so. Chiedo a Berlusconi se è contento che se n'è andato. Parenzo, che dici? Un aggettivo per descrivere Fini. Pronto? Un aggettivo per descrivere Fini. Fini, algido. Algido, come algido? Ah, chiamiamo il gelato, ti ricordo. Eh sì, il gelato era algido. Algido, gelato. Freddino, diciamo. Freddino, ma c'è algido. Da quant'è che non ci parla lei? Ma un annetto. Un anno. Vi incrociate? Però siamo sopravvissuti entrambi. Vabbè, ma vi incrociate? Quando vi incrociate che succede? A voi lei al Senato? No, la vicina, buongiorno, buonasera. Ma a me capita spesso, io sto al Senato, lui sta alla Camera. Quindi. Certo. Facciamo vite diverse. Io vado alle manifestazioni di destra, lui manda le sue bandiere a quelle di sinistra, quindi difficile che ci si incontri. E Bocchino invece, mi dia la definizione di Bocchino. Bocchino? Insomma, spregiudicato. Spregiudicato. Ma ci farebbe di nuovo un'alleanza con Bocchino? Beh, insomma, sarei molto prudente, francamente. No? Ormai è finita, è impossibile. No, mi pare un po' difficile vedere. Mi pare, al momento mi pare un'ipotesi non proponibile. Tra 20 anni, che ne so? E che tra 20 anni, non so, chissà. Tutti a fare viaggi in giro nel mondo, a riposarci finalmente. Grazie, buona serata, grazie. Grazie a lei. Grazie. 20:12, 800 24 00 24, pubblicità. Eccoci qui, 20:14, andiamo a sentire Paolo da Milano, con cui stavamo parlando prima dell'intervento di Gasparri. Allora Paolo, lei vuole parlare del format di questa trasmissione, giusto? Esatto. Cosa vuole dire in conclusione? Niente, in conclusione vorrei darle un suggerimento, se è possibile. Mi dia un suggerimento. Il mio suggerimento è quello di introdurre nella sua trasmissione, oltre all'ospite, all'opinionista Parenzo e al conduttore, eventualmente anche un opinionista che individua settimanalmente dalle persone comuni. Ma guardi, io è una cosa che faccio continuamente, Paolo. Lei... No, lei non fa questo. Lei, non faccio questo. Mi permette di dire quando che ci sono persone, persone. Quando ci sono persone particolarmente bravi ed efficaci, guardi che io le persone me le sono coltivate per anni, le ho fatte intervenire spessissimo. Ma io mi sono permesso di dare questo suggerimento perché la seguo da tanti anni e mi rendo conto che nell'ultimo periodo c'è questo cambiamento repentino che io non condivido, per cui la mia opinione è questa qua. Mi piacerebbe di più la trasmissione in cui le persone come sottoscritto normali, sì, comuni, potessero partecipare attivamente. Ma è ancora così, se lei continua a parlare, sì. Se lei continua a parlare di questa cosa, sì, e non di un argomento, è come se, come dire, c'è una argomenti ce ne ho tanti, è una contraddizione in termini, Paolo. No, allora resti lì un attimo, fammi sentire Attilio da Milano. Mi faccio sentire Attilio da Milano. Attilio? Pronto? Dica. Eccomi, sono qua. Dica. Io volevo fare invece un'altra considerazione. Sì. Lei non più di mezz'ora fa ha detto a una signora che manifestava del Popolo Viola che era preferibile che andasse a casa per fare qualcosa di meglio. Sì. O perlomeno ha fatto una cosa. Ma sì, ma era una battuta, Attilio, stavo. No, ha detto così, eh. Sì, ho detto così, è vero. Non c'è dubbio. No, allora rispondo subito. A parte che ero in collegamento con Parenzo e con questa signora, sì, e la stavo evidentemente provocando. Ognuno, lo ripeto qui a scanso di equivoci, può fare quello che vuole. Considero le manifestazioni tutte legittime. Ho grande rispetto di chi manifesta. Certo, sulle manifestazioni in generale, non solo questa qua, anche quelle davanti al Tribunale di sostegno a Berlusconi, la penso come la penso. Per cui, non è che rinnego quello che più volte ho detto. Le dico semplicemente un'altra cosa, che stavo in collegamento con Parenzo, con questa signora, e la provocavo un po', tutto qui. Che quelli che fanno quelle manifestazioni lì non valgono niente. Ma non è così, Attilio, non la penso così. Guardi, le assicuro, non la penso così. Non c'è alcuna differenza nella mia testa tra quelli che vanno a manifestare sotto il Tribunale per Berlusconi e quelli che manifestano sotto la Camera, naturalmente al netto delle azioni di violenza, se ci sono azioni di violenza, questo non c'è dubbio. Io sulla violenza non transigo, anche la violenza può essere anche una monetina tirata, Beh, come no? Perché una monetina tirata in testa è una cosa... Mettiamola giù più dura del necessario. Che cos'è una monetina tirata in testa? Scusi, Attilio. Una forma di disprezzo. Non è una forma di violenza, no? Di disprezzo. Parenzo, secondo te che cos'è una monetina tirata in testa? È una forma di violenza stupida e da non fare. Scusi, Attilio, se a lei le arriva una monetina in un occhio, che pensa, che è una forma di disprezzo oppure va a farsi controllare all'oftalmico? Boh, direi che per tirarmi la monetina in un occhio devono prendere un tirasassi. Ho capito. Monetina invece che gli butto. buttano per terra non sono monetine che vanno a finire negli occhi. No, per terra è un discorso, tirarle per terra così, ma le monetine di solito vengono tirate addosso, anche non solo per terra. Ma anche trovo un atteggiamento incivile. Vede che è sempre quel giochetto per far apparire le cose che non sono. Ma come le cose? Le hanno tirate per terra dappertutto. Ma non è detto, possono essere. Ma andate morde fam, capito il milanese? No, me lo dica, scusi, me lo spiego. Morde fam. Morto di fame, che cos'è? Allora che c'entra il morto di fame? È un gesto, no? Cioè buttare le monetine è quello sì, che si fa un morto. Certo, quando si buttano per terra, io sto dicendo le monetine tirate addosso, Attilio, è un altro discorso, le monetine tirate addosso. Comunque qualsiasi forma di violenza, ripeto, qualsiasi forma di violenza fisica, una manifestazione particolarmente violenta in cui se entri alla camera e sei assediato da gente che dice vergogna, ti insulta, sputa, eccetera, ecco, non è la stessa cosa rispetto a manifestazioni civili che ci possono essere sia a destra che a sinistra. Quindi oggi non è stato fatto, no, ma no, io adesso sto dicendo al di là di quello che è successo oggi, mi sembra che non sia successo oggi, nulla, mi sembra nulla, che non sia successo sono nulla. Poche, sono 150 persone, bandiere, comizio da stamattina, maratona oratoria, cartelli, striscioni, bandiere, e ora presidente vattene, Berlusconi fatti processare, una cosa che conosciamo dal 1994. Assolutamente. Traffico. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. In diretta dalla camera. Colleghi, hanno votato? Si sta votando ancora sul processo breve. Intanto P2 è l'urlo che i deputati di PD e Italia dei Valori hanno urlato al colleghi capogruppo del votato? PDL Cicchitto durante la sua dichiarazione di voto. Al presidente della camera Fini ha dovuto chiedere più volte il silenzio. Che succede? Allora qua si sono fatti portare un piccolo televisore anche in questo comizio, in questo come dire palco improvvisato, stanno seguendo da questo piccolo televisore le votazioni alla Camera e sono curioso di vedere la reazione quando tra un po' il presidente Fini proclamerà l'esito della votazione. Intanto i manifestanti si interrogano anche su come proseguire la protesta nei prossimi giorni, qualcuno addirittura ha detto potremo andare ad occupare le strade. Un attimo, ecco, fa sentire la Camera. Sede legislativa. Della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione qui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa che proporrò alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, alla settima commissione cultura. Atto Senato 2146. Va bene. Di altri, aumento del... Dove andiamo? Massimo da Parma, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, dottore. Salve, volevo solo dire due cose velocissime. La prima sul senatore Gasparri che ha detto che ha espresso il suo giudizio su Saviano. Io non riesco a capire come mai Saviano però ha la scorta di 7 persone, mentre l'onorevole Gasparri non mi sembra che rischi la vita per la mafia o la camorra. E la seconda cosa che volevo dire, anche nell'idea dell'onorevole a fare la politica, ha detto che lui va in televisione da Santoro perché il suo mestiere è quello di fare di politica, ma il suo mestiere è quello di andare in Parlamento, che secondo me non fa neanche tanto perché ci va solo quando interessa il nostro Presidente del Consiglio. La saluto. Non è che va in Parlamento solo quando interessa Berlusconi, ci andrà anche per altre votazioni. Sta parlando Roberto Giachetti, uno di quelli che si è immolato all'ostruzionismo in questi giorni del Partito Democratico sulla questione del processo breve, prescrizione, eccetera, eccetera. Sembra apparire che la mia opinione sia un'opinione sulla sua persona in quanto Presidente della Camera, su come ha condotto fino ad oggi i lavori e su anche... Va bene. Gheri da Torino, buonasera. C'è l'onorevole Bocchino. Grazie per farmi partecipare al bar della Zanzara. Sì, che dice Bocchino, scusi? Qui sta andando dai manifestanti, è qui davanti a noi. È tutto interviste. Che sta dicendo? La situazione che si è creata. Che dice Bocchino? È qui in diretta, aspetta. Mettimi il microfono accanto, metti il telefono accanto. Ecco, onorevole Bocchino, sta dando la ecco, saluta i manifestanti. La Camera intanto ha approvato il testo del processo breve, sulla prescrizione breve, scusa, non processo breve, prescrizione breve. L'Aula della Camera ha approvato il testo. Che sta dicendo Bocchino ai manifestanti? Manifestanti. Va bene. Gary, dica lei. Appunto, dicevo grazie per partecipare, sarà lei e Parenzo. Volevo in qualche modo farti i complimenti che non vi faccio, ma ve li meritate. Volevo fare un parallelismo cercando di difendere l'indifendibile Don Neuro. Don Neuro De Capitani, sì. Esatto, perché? Perché io dico che ci sono persone, tipo i nostri politici, che sanno benissimo comunicare anche dicendo delle... un attimo solo, sentiamo... Con una prescrizione breve, la condanna è certa in primo grado a Berlusconi per il caso Mills, mentre l'Italia si rottura con l'Europa, il Mediterraneo è in fiamme, c'è un'emergenza umanitaria certificata con i profughi che arrivano, c'è un'emergenza ambientale mondiale per farsi le scuole, noi blocchiamo il Parlamento per un solo processo, è inaccettabile. 18 voti di differenza e una maggioranza che ha i numeri solo per distruggere e non per costruire, mai che ci usassero i numeri per dar vita a qualcosa di una riforma. La verità è che Berlusconi non ha capito che quando c'è stata la rottura con Fini doveva dimettersi, sta sostituendo un esercito regolare in Parlamento con un esercito di mercenari e a pagarne le conseguenze sarà l'Italia. Esercito di mercenari in Parlamento, dice Bocchino. Gna, vergogna, vergogna. Ha sentito Bocchino? Sì, sì. Grazie, Parenzo. L'avete sentito? E come no, l'abbiamo sentito, certo. Ecco, no, perché io non avevo più l'auricolare, l'ho dato a lui. Abbraccio dei militanti, lui dice, beh, l'avete sentito, quindi non ancora ripetono. No, l'abbraccio dei militanti non l'abbiamo sentito, che ha detto? No, lui dice sono venuto qui perché io posso venire qui a testa alta, non ho paura, anzi, sono qui perché sono venuto a difendere il diritto, quello che ho votato oggi in Parlamento, e posso venire qui a testa alta a salutare i miei militanti di Futura Libertà, questo ha detto. 314 sì, 296 i voti contrari, Cicchito ha detto, rispondendo alle critiche, l'obiettivo della sinistra e dei PM è la distruzione del Premier. C'è però un giallo Wall Street Journal, questo è interessante per il dopo. Il giallo Wall Street Journal è questo, perché in una conversazione con il Wall Street Journal Berlusconi avrebbe detto: non mi ricandido, penso ad Alfano Premier. Subito le precisazioni di Bonaiuti, le frasi del Wall Street Journal sono solo ragionamenti che spesso sulla stampa estera vengono presi come apodittici. Va bene, abbiamo che cosa? Gary da Torino che stava intervenendo, Gary, dica. Sì, buonasera di nuovo, non so dove allora, ero rimasto. A Don Giorgio. Ah, bene, volevo fare appunto questo parallelismo tra Don Giorgio, cercando di difenderlo chiaramente, perché... Cioè lei difende Don Giorgio De Capitani? È da difendere. Parenzo, sei pronto? Vabbè, qui siamo alla follia. Aspetti, mi faccia dire. Dica. Io quello che dico è che questo Don Neuro ha espresso in maniera molto cruda, brutale, un pensiero. Secondo me ha peccato solo di non saper comunicare nella giusta maniera. Noi facciamo un esempio di questo. Scusi, signor Gary, in questo lei sta cercando veramente il pelo nell'uovo, cioè ha sbagliato nella comunicazione. C'è uno che dice che vuole uccidere Berlusconi, secondo lei sbaglia nella comunicazione. Quale ma altro non ha detto che vuole uccidere ma come Berlusconi? No. Ha detto prego affinché questo avvenga in una certa maniera. Ma è una cosa pazzesca, si rende conto? Aspetti, no, ma dico, brutale, che si augura la morte di una persona. Brutale, cruda, rustica, rude, ma ha detto, ha espresso un pensiero. Pensiero, augurare la morte a uno, non è esprimere un pensiero, lei non deve bere prima di telefonare, non deve bere. Ascolti, io non ho bevuto. Lei ha un po' bevuto, mi sa. Non si può sostenere questa cosa. Astemio, quindi il problema non esiste. Dove si trova esattamente lei? Dove si trova? Guardate che anche voi la meritate molto spesso, quindi ve ne mandiamo tantissime. Ecco, ma lei dove si trova? Scusi. Però volevo fare Ok, facciamo il parallelismo, perché ho detto quello che pensavo. Ma riesce a intercettare Bossi? Un attimo solo, che resti con noi. Prego. Ministro. Parenzo insegue Bossi. Ministro Bossi, buonasera, la Zanzara, Radio 24. Com'è andata a finire? Come si prevedeva. Berlusconi i numeri, quindi. È contento? Il risultato è quello che ci si aspettava, quindi. Va bene. E adesso si va avanti? Va benissimo. Avete ingoiato un rospo oppure avete votato con piacere, ministro? Ministro, Avete ingoiato un rospo o l'avete votato con piacere questo processo breve? Bella domanda. Avete votato con piacere, ministro? Abbiamo votato. Abbiamo votato, punto, dice. Con piacere o no? Abbiamo votato. Partecipazione. Va bene, però se lei mi fa lavorare gentilmente, non è che hanno ingoiato un rospo, diciamo la verità, o no? Hanno ingoiato un rospo. Abbiamo votato, appunto, abbiamo votato, ora si va avanti. È andato via? No, è qua. Stimolare l'Europa a fare qualcosa. Vabbè, però è una posizione grave, no? Non credo. Fermo perché ci fermate voi. Cosa stanno chiedendo? Dei barconi? Vabbè. Ora il federalismo è più vicino, ministro? È più facile la strada per il federalismo? È andato via, va. No, è qua, ma mi stanno, ci sono tutte le telecamere, ci stanno spingendo tutte, però. Che cosa risponde? C'è Parenzo intorno a Bossi, Reguzzoni, capogruppo della Lega alla Camera. Una risposta. Aspetta, però me lo vabbè, diamo la borsa. Perché ti sei innamorata di questa musica americana? Ma perché? Ti sei scordata che sei romana, gli stornelli non cantano. Annarella! Io sto a cantare. E canti. Annarella non viene più. Oh, le fiori alla lontana. Parenzo, c'è la tua amica Annarella in collegamento. Oh, Annarella, vai riportare, come stai? Io sto bene, voglio anche conversare. Non c'è male, ma come mai lei non è davanti alla Camera a protestare contro i deputati per l'approvazione? Ma ce l'ha da mattina io da quel porco. Vabbè, ho capito. No, adesso non faccia proprio subito così. Lei è il nostro pane bianco, signora. Scusi un attimo, Annarella, ma lei è andata stamattina, ma doveva andare stasera? Perché non è andata stasera? No, io ho 85 anni, do cazzo vada a sera. Non mi fai le parolacce. No, c'ha ragione anche lei. Sì, questo pure è vero, però non sembra che abbia 85 anni. Aspetti, io ho mangiato una bella insalatina. Sì? Ho mangiato un'insalatina con una bacchia scottadito alla faccia del Berlusconi. Che c'entra Berlusconi? Scusi, che c'entra Berlusconi? Come, scusi? Scusi, Annarella. Hai capito quello che ti ho detto? Se deve vergognare a dire che c'ha 20 case. La gente non c'ha manco 20 centesimi per piazza il pane. Brutto sotto il vergognato, ha portato solo da 3 settimane che c'ha tutti i ministri a Roma, tutti i leghisti che ci potessero spavornare lassù. Però scusi Annarella, adesso che c'entra Berlusconi? Abbia pazienza, cioè alla faccia di Berlusconi. Allora, visto ieri che ha fatto scenografo fuori dalla cosa, ha fatto giullare fuori al tribunale. Ah sì, certo, è andato. Giullare c'avevamo invece del presidente. No, quello era lunedì, ha fatto. Barzelletto sfumante dal petto, c'ho tutti sotto. Mamma moria ammazza sotto sotto. Scusi. Fa schifo. C'avevamo un presidente che fa schifo. Perché ha rubato sempre e ruberà sempre. Scusi Annarella, però lei, se lei fa così dalla mattina, arriva la sera e gli viene un coccolone. Scusi. Che io sto bene, io ho tutti i carabinieri in favore mio, se vanno tutti bene, mi abbracciano, mi abbracciano pure quelli avversari di me, tutti quanti. Scusi un attimo, ma lei stamattina alla Camera chi ha incrociato come al solito? quel pregno che ti ho detto prima, là, come si chiama? Che è? A Parenzo, sì, sì, Parenzo. Cioè, Parenzo, va bene, d'accordo, no? Però... Qua sotto, svergognata di cosa là? Di chi? Quella che mette il dito per l'aria. Che è dito per l'aria? Chi è? La Santa Anche. Ah, la Santa Anche, la Santa Anche. Che io ho detto la prossima volta te lo devi mettere lì e mangiatelo in bocca. Annarella, su. Dopo questo sapido editoriale della signora Annarella, no? Sapidissimo editoriale della signora. Ma questa è la voce che conosco io. È Parenzo, quello che ha incontrato stamattina. Disgraziato. Ma come scacciato? Parlo di casa. Non fa che ne vanno tutti bene. Sì, certo che la vogliono tutti bene. Tutti, ma. Scusi un attimo, signora Annarella, ma alla Santa Anche cosa ha detto? È riuscita ad avvicinarla? Se devo lasciare tirare i capelli, lasciami perdere, che io già ci ho litigato più di una volta. Ma no, se tirare i capelli, io ho detto capia di da qua Civitavecchia, li mette tutti in fila. Scusi un attimo, Annarella, ma che cosa le ha fatto? Altre cose. Che le ha fatto la Santa Anche? Scusi, Non mi ha fatto niente, una gazzuzza. No, ma scusi, ma non si possono dire. Perché dice queste cose? Bunga bunga. No, ma che c'entra bunga bunga con la Santa Anche? Scusi. Senti, mica è meglio, è pure peggio, Cioè, in che senso è peggio? Sto a dire che quella si è magnati da Roma a Civitavecchia, 90 chilometri se ne è magnati. Ma di che? Io non capisco queste cose. Sì, vabbè, me capisco da sola. non fa il coso che non lo capisci, lo capisci. Perché a me mi capisco da volo. Stamattina i carabinieri mi ha detto tu bisogna fare un libro perché sei troppo forte. Scusi un attimo, Annarella, ma mi spieghi una cosa, ma oltre la Santa Anche, chi ha incrociato stamattina? Stavano già tutti dentro. È arrivata tardi. Sì, ho incontrato Bocchino, mi ha abbraccicato, mi ha baciato. Ah, attenzione, qua c'è notizia, Non gli è stato un favore a Bocchino. Annarella, due punti, ho abbracciato Bocchino, giusto? Sì. Manda la leggenzia subito. Ho abbracciato Boccia. Boccia, ma lei tutti quelli di sinistra, Bocchino non è di sinistra, però. Bocchino che è un fascista, che me frega a me. Io però ci voglio bene, pure a Fini. Perché sono fascisti? Perché sono più signori di quel posto che c'è dal governo. E vabbè, ma signora, ma adesso Berlusconi lei l'ha mai incrociato? Ma li fa, lo posti da ammazzare, lo sa che fa? Che io fa? Vado sotto casa sua, sì. Sto due ore e non esce mai. Poi quando è che chiama tutte quelle che c'è la sezione, no? Perché c'è pure la sezione, quando è che c'è le votazioni che manda i libretti per i palazzi, sì. Io pio tutti questi libretti, sì. Li metto dentro la busta, vado là, ci butto sul tavolino la via dell'anima, la sezione la via dell'anima, ci dico e ci metto un centesimo sopra e gli dico, di che ci si piace il caffè quel sozzone, che se deve solo che vergognare di quanto che lui ha rubato il sole. Scusi Annarella, ma adesso quando torna? Domani alla Camera? Quando torna davanti al Parlamento, a Montecitorio? Domani, però cerchi di arrivare, domani non c'è più nessuno, mi sa, il processo breve l'hanno approvato. Domani vedo tutti amici miei che stanno al governo. Ah, domani li vede tutti, Li vedo, sì, se lo posso avere poco ecco, davanti a me. Signora Annarella, facciamo un attimo. Signora? Che dicevi, Parenzo? No, volevo chiedergli proprio un commento. Adesso ormai il processo breve è stato approvato alla Camera, quindi la nostra editorialista cosa dice? Cosa prevede per il futuro? Il governo reggerà, signora Annarella? Ma speriamo che se ne va a ammazzare invece, guarda un po'. E con questa chiusura diciamo non è galli della loggia, però ecco. Perché ne devo fare votazione? Perché lo sa che sta sotto. Vieni che non sta a mangiare la polenta sua padagna. Ah, chi? Ha capito? Sì, beh, certo. La padagna va a bacio. Vabbè, mi raccomando, non mangi troppo la sera, signora Annarella. No, io mangio poco perché mi hanno operato lo stomaco, perciò mangio poco. Che mangia? Devo mangiare poco. Ha mangiato l'abbacchio, mi ha detto stasera. Batte scottatita la faccia del Berlusconi. E ancora? Ma che bello, perché ha la faccia? Io non penso che Berlusconi sia lì a dire chissà cosa mangia Annarella, capito? Cioè non penso. Oh, a vabbè. No, dico Annarella, io non penso che Berlusconi in questo momento sia lì a dire oh, vediamo un po' che si è mangiata Annarella, c'ha altri problemi, non è che gli frega che lei si è mangiata l'abbacchio. Senti, a vabbè. Ma sono tutti i parlamentari, che ti sei preparata per pranzo, che ti sei preparata per cena, se mi vedono che mi metto sopra uno scalino, vengono là, mi vengono a piazza perché hanno paura che casco. Penso a quanto mi vanno bene. Ieri sono andata a prendere il caffè con Paola e qua cosa, che come si chiama? Chi è Paola? Chi è Paola? Paola Concia. Ah, ma lei solo con quelli di sinistra là? Certo. Ho capito, ma... quelli da destra a me non mi frega niente, perché l'essenziale è che sono bravi ragazzi. Poi, ma però sono sempre io, sono di sinistra, mia sono di destra. Ma poi, la Berni... Se mi fate manca la Bepada, mi prendeva a piacere quando ero piccola. Ma senta, ma chi ha incontrato poi oggi? La Bernini l'ha incontrata di nuovo? No, magari a rincontrarsi. Ah, oh, mi hanno fatto un coso sopra, ti ho detto, là su Gold TV, qualche cosa di bello. C'era Bernini, c'è sta cosa. Allora, che come si chiama? Quello che prima era radicale, che mostra colpì stasera, ha parlato, là, come si chiama? Là, nome per nome. Ma chi è? Capezzone. Capezzone, ma metto la voce meno, che sta di? Capezzone l'altro giorno, dopo due anni ho beccato, sa. Tanto uno per volte becco così. Che gli ha detto a Capezzone? Campione della mignotta, perché no! Prima era radicale, ascolta, prima era radicale, poi è venuto a sinistra, molto a destra, ma che sta a fare quel barbone? Quello è della vedova, quello che ha incontrato. Bravo, c'è pure la fotografia con della vedova. Ma lei solo con quelli che stanno contro Berlusconi, vabbè, ho capito. Basta che non posso vedere i carabinieri, date che mi vanno bene, non può vedere nessuno. Dio che non è mai votazione, che col cavolo vince sta botta. Va bene, Annarella, grazie, buona serata. Oh, starebbe! Ah, non sta quel delinquente che sta lì! Eccolo là, Parenzo, eccolo no, qua. Sto inseguendo perché i giornalisti si stanno tutti spostando. Saluta la signora Annarella, saluta la signora Annarella. Annarella, sto a cercare Berlusconi, amica mia, sto a correre. Sto andando a cercare Berlusconi, Annarella. Parlamento! Parenzi, se vediamo là fuori. Va bene, va bene, vedetevi domani, offrile un caffè. Un abbraccio, Annarella, un abbraccio. Io non posso più che ci offro. Grazie. Zanzara! Eccoci qui, 800 24 00 24. Luca, provincia di Varese. Sì, salve. Dica. Io volevo un paio di interventi rapidi, diciamo, finita l'ilarità, un attimino più seri, nel senso che ho sentito diversi interventi dove si ripete come un refrain il fatto dov'è il reato, alla fine libertà di fare tutto in casa sua riguardo il bunga bunga. In realtà i reati sono due, sono molto chiari. Uno, ed è poi secondo me la questione centrale, è la prostituzione minorile. Siccome lo stesso governo aveva già presentato una proposta di legge per aggravare le pene per appunto utilizzazione di prostitute minorenni e poi guarda caso è stata ritirata immediatamente. No, però scusi Luca, lei sta entrando nel merito di quello che sarà la vicenda processuale che riguarda Berlusconi. Cioè lei ci sta dicendo che secondo lei come dire, i reati contestati a Berlusconi sono reati, cioè Berlusconi ha commesso questo tipo di reati, questo sarà il tribunale ad accertarlo. No, però, ma nel momento in cui si discuteva prima e anche lo dottore continuano a chiedere no, dov'è il reato? Beh, il reato c'è. No, ma ne parlavamo a proposito di un'altra vicenda, della vicenda delle due ragazze che hanno rilasciato quelle dichiarazioni, hanno fatto un interrogatorio di fronte a un magistrato. Sì, ma infatti l'altra questione è proprio sul fatto che, tra l'altro io operando nel settore della moda ho anche diciamo diverse amicizie in Facebook tra le ragazze passate appunto sì. Da Arcole. E voglio dire... Cioè lei ha conoscenza di persone che sono passate alle feste di Arcole? Le amicizie in Facebook, quindi si vede su amicizie in Facebook. Beh, insomma, amicizie in Facebook è una cosa, conoscenza di persone è un'altra. Comunque ha conosciuto delle persone. Infatti, io non ho detto che sono. Ho detto tra le amicizie in Facebook solo relativo al lavoro che faccio. Sì. Niente di. Sì. Ecco. Allora, no, ma mica è un delitto, cioè... No, premetto per quello che sto per dire. Sì. Il fatto che tanti si dimenticano. È che al di là di queste ragazze diciottenni che entrano in questo tipo di mondo e quindi al momento è ovvio che sono non solo consenzienti ma anche più che contente perché vedono una valanga di soldi che non si sono mai visti in vita loro, però in realtà sono realmente delle vittime perché dopo, e ci sono già i casi, vedi Virginia San Giusto, vedi Sara Tommasi, ne escono spesso poi psicologicamente distrutte e questo lo si vede anche da alcuni commenti, le faccio un esempio. Ma questo che reato è, scusi? No, non sto più parlando di reati. Lei sta parlando che frequentando, in alcuni casi frequentando Berlusconi, si esce fuori di testa. Beh, questo diciamo che non è solo per... Ho capito, Luca, questo è però... una cosa pazzesca. Scusi, abbia pazienza. Non mi faccia dire ciò che io non ho detto. Ma lei questo ha detto. Le parole che uso. Io ho detto... Io riassumo per la platea. No, no, magari io credo di riassumere molto bene. Frequentando un certo tipo di mondo, e quindi soprattutto legato a tutto questo tipo di giro di memoria, di feste, festine. Ho capito, frequentando Berlusconi o no? Perché se lei ci sta parlando di un altro mondo, chi se ne frega? Se ci sta parlando di Berlusconi, anche, sì. Anche frequentando il mondo di Lele Mora, Berlusconi. Con nome e cognome. Benissimo. Virginia San Giaste, Sara sì, Tommasi. Sì, sì. Parla ovviamente di quel mondo sì. E sono due ragazze uscite sì. distrutte da quell'esperienza. Uscite distrutte da quell'esperienza, benissimo. Ci sono tante ragazze che escono distrutte da o tanti uomini che escono distrutti da tantissimi tipi di esperienze, da relazioni, esatto. E mondi più strani, eccetera. C'è una differenza che ognuno può commettere errore, giustamente. Io sto solo facendo un'osservazione. Attenzione al fatto che a 18 anni una possa essere all'inizio entusiasta di una valanga di soldi che non ha mai visto in vita sua, sì. di un mondo a livelli altissimi, dopo, come è già successo, e ho fatto due esempi, sì. in realtà non è che voglio che queste ragazze vuol dire sia solo un bene. In realtà diverse volte se vengono prese a un'età giovane e lì ha un senso la prostituzione minorile, il senso di perché è un reato, perché dopo ne vengono veramente psicologicamente distrutte. No, però mi scusi, basta, lei sta parlando di un'altra di una cosa che con la prostituzione minorile non ha niente a che fare. La prostituzione minorile è un reato. No, esatto, io non ho parlato di prostituzione minorile, ho parlato solo che attenzione al fatto che spesse volte sono realmente vittime e le conseguenze di una vita di un certo modo le pagano psicologicamente dopo. Vabbè. E ho fatto due esempi. Sì, tragici. Sì, per carità, due esempi tragici in cui le responsabilità, come dire, sono poi affidate chi ha l'attribuzione delle responsabilità è affidata. Non so bene a chi, perché là da una parte si dirà che quelle ragazze avevano dei problemi, dall'altra parte si dice che invece è colpa di Berlusconi che ti illude e poi ti scarica, eccetera, eccetera. Qui c'è la Bindi arrabbiatissima, sentiamo? Un attimo solo. E se vuole gliene numero adesso tutti io i precedenti, e quindi non è possibile accogliere questo tipo di osservazioni. Ecco. Dopodiché, onorevole Straguadagno versus Bindi. Sì. Se posso completare. Ho compreso quello che mi ha detto ed era su un altro aspetto che volevo intervenire, che mi ha colpito, l'ho ascoltato dai monitor, Presidente, quindi se ho sbagliato a comprendere è ovvio che le mie considerazioni saranno considerate ultronee. Ma Straguadagno, Parenzo, non possiamo accettare. Numero uno. Non so di cosa stesse parlando, era una critica che evidentemente la Bindi non ha raccolto. Vabbè, Luca, io ho capito benissimo, però ripeto, lei non può rimanere così sul vago. Lei ci dice, da esperienze con Berlusconi o con l'entourage in cui è coinvolto Berlusconi si può uscire distrutti. E vabbè, d'accordo. Sia meno lì. Pratico. Che ho fatto. No, ma li conosco bene quei due casi, cioè ne ho letto. Ho capito, ma voglio dire, ma allora Berlusconi che responsabilità ha nella vicenda di questi due ragazzi? Me lo dica esplicitamente allora, secondo lei, Luca, dato che conosce questi casi o sembra conoscerli, mi dica Berlusconi che responsabilità ha in questi casi, che sono casi che riguardano casi umani, cioè di persone, non sto dicendo casi umani nel senso negativo del termine. Ma io non voglio fare processi, io ho fatto un'osservazione, siccome si parla sempre... Si imposta il problema sempre dal punto di vista che sono tutte contente queste ragazze, che bello, che tutto. Io ho solo messo l'accento, senza far processi perché non è questa credo la sede, quindi io ho solo voluto mettere l'accento sul fatto che in realtà ragazze prese e coinvolte in un certo mondo, in un certo tipo di vita, a 18 anni piuttosto che voglio dire a 17 o 19, chiaro che in quel momento la ragazza sembra di entrare nel paradiso, ma dopo in realtà ne paga conseguenze. Vabbè, ma allora questo come dire, fa parte anche del gioco, del mondo dello spettacolo, insomma. Guardi, le faccio sì, un esempio. Mi faccio un esempio. Può valere anche per tutti noi che facciamo i giornalisti, Nei vari commenti che si leggevano su una di queste ragazze, ormai diventata famosa, su Facebook, risalenti a quest'estate, quindi prima ovviamente che loro venissero fuori al grande pubblico, per cui è evidente che postavano un commento su Facebook sapendo che nessuno avrebbe capito a che cosa si riferivano, quindi se lo si va a rileggere dopo si capisce. Ma chi è questa ragazza? No, ovviamente non ne faccio il nome. Allora, nel momento in cui era, in quel momento, l'agosto a Villa Certosa, i commenti erano della serie, sono in una gabbia, sì, una gabbia dorata, ma pur sempre una gabbia. Ma nessuno è obbligato a stare in una gabbia. Bindi verso Straguadagno ancora, un attimo solo. No, ma non l'ho collegate le due cose. Ma non l'ho collegate. c'è lo stenografico, non ho dato dell'indegno a nessuno. Onorevole Stragadani. Presidente, ci sarà il processo verbale domani. Stia tranquillo. Però io le chiedo soltanto. Le proteste perché, secondo Stragadani, la Bibbia avrebbe dato dell'indegno a qualcuno. Stia tranquillo. Va bene, Luca, vogliamo concludere? Sì, sì, no, le dicevo solo che io ho visto anche alcuni commenti che erano poi evidenti risalendo alle date, al ritorno, sì, alla notte, dalle serate di Arcore, e le assicuro che dai commenti traspariva in modo evidente un certo senso di vergogna e di tristezza. Perché ma non c'era ragazza, nessun obbligo di andare lì, eh? Cioè, non... Ma è ovvio, le sto dicendo proprio questo, 18 anni, quando una vive 10.000 euro in una sera non se li sogna neanche di traverso, è ovvio che voglio dire... Entro in un mondo che mai e poi mai avrebbero neanche sognato di poter vedere da lontano. E quindi è chiaro che ho capito. Grazie, ma grazie Luca. Pagano dei prezzi, questo sto dicendo. Grazie Luca. Pietro da Udine, buonasera. Buonasera. Dica. Io ho sentito stasera che lei chiedeva al ministro Gasparri cosa pensava di vedere le bandiere di Future Libertà insieme a quelle del Popolo Viola. Sì. Perfetto, sì. Bene, io le chiedo, ma non le sembra opportuno invece spostare il focus dell'attenzione, sì, durante le sue trasmissioni su argomenti diversi? Guardi, abbiamo chiesto a Gasparri anche del processo breve o della prescrizione breve, evidentemente lei non è stato attento, Pietro. No, evidentemente il campo, perché sono in una zona. Ah, ecco, ha perso il campo. Allora si informi meglio prima di intervenire. Grazie. Se vuole, comunque la ospitiamo molto volentieri domani, perché adesso, come sta sentendo dalla musichetta, il tempo è terminato. Insieme a Paolo da Milano, poi Giulio da Roma, Roberto da Carra, Maurizio da Siracusa, ci sentiamo domani 18:30. Ciao Parenzo. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.